siamo veramente in tanti, per cui sono veramente contento, la conferenza sarà sicuramente estremamente interessante, spero per tutti. L'oratore ha deciso, siccome sarà una conferenza anche abbastanza lunga, di rinunciare alla proiezione delle diapositive per non farvi addormentare, ha detto, quindi però parlerà adesso qui, però un secondo che provo e leggo un po' la biografia. Matteo Dominioni, che è qui alla mia destra, è studioso, nato a Roma nel 1973, laureato in storia nel 2001 presso l'Università di Ca' Foscolo in Venezia, con una tesi di laurea sull'occupazione fascista della regione del Gofian in Etiopia dal 1935 al 1941. Dottorato in storia delle società contemporanee nel 2006 presso l'Università degli Studi di Torino, con una tesi sull'occupazione italiana in Etiopia dal 1935 al 1941. Tra le varie pubblicazioni, Lo sfascio dell'impero, pubblicato dalla Terza nel 2008, La battaglia di Adria e l'impresa coloniale nel 1895-1896, nel diario del caporale italiano Giancarlo Chiotti, pubblicato dalla Noto di Como nel 2006. È il collaboratore dell'ISMI, dell'Istituto Nazionale di Storia e Movimenti di Liberazione in Italia, e oltre che chiaramente uno studioso da sempre, insegna storia. Direi che è successo qualcosa, ma non è che ci sia sparati adesso. Gli passo subito la parola, augurandomi che quelli che vengono anche da Como, che sono venuti da fuori, che c'erano anche la scorsa lezione, che se non essere diventati degli abituati, li troveremo anche nelle prossime conferenze, che vi ricordo per sommi capi. Tra 15 giorni, il 2 marzo, nella Sala Civica di Mariano Comense, ci sarà Paolo Pezzino, lo storico, sulla resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 15 giorni dopo la cadenza quindicinale di questa conferenza, il 16 marzo, a Uggiate Trevalo, nella Sala Meridiana, ci sarà Claudio Sicardi, altro storico di fama, sulla resistenza dell'Europa occupata 1940-1945. Il 30 marzo, nella sala nazionale Comune di Trevezzo, il Trevezzino in Alto Lago, Giuseppe Calzati sulla resistenza del Comasco, e l'ultima sulla resistenza della Costituzione, che noi abbiamo dato come fatta da Maria Leonida, però con Maria Leonida purtroppo non abbiamo ancora trovato un contatto valido, cioè non mi risponde, quindi può darsi che l'oratore sarà diverso, questo lo vedremo. C'era Antonio che con Unita ha contato questa parte del cristinato, per cui vedremo. Comunque queste sono le conferenze che noi andiamo a fare e qua auspico veramente, come ambi, che i partecipanti siano sempre altrettanti. Per ora grazie, passo la parola a Dominioni, a Matteo Dominioni, per la sua conferenza. Con questi chiedo scusa alle signore presenti, non nulla di... Però dovete sapere che durante il fascismo nelle colonie qualsiasi documento riguardasse le donne, all'oggetto del documento era sempre il problema delle donne, evidentemente era vissuto come un problema. Non è il mio caso, però non ci spugno. Ringrazio l'Ampi per l'invito, ringrazio voi, siete tantissimi. Prima di iniziare vorrei dedicare un ricordo a Perugino, Perugino Cristo, sul sito dell'Ampi dell'anniversario. Per me Perugino è stato un maestro non di storia, non di politica, ma di umanità, ho sempre apprezzato il suo modo di vedere il mondo e la vita, ecco, quindi volevo ricordarlo. Quando Guglielmo Invernizzi mi ha chiesto un intervento, ha fatto riferimento a una serie di incontri e mi ha presentato come una sorta di scuola di formazione, e quindi ho preparato un intervento un po' corposo, un po' denso, ecco. non vi parlerò di stragi, non vi parlerò di efferatezze commesse, ma vorrei che si esca di qui con una visione di quello che era l'impianto coloniale degli italiani e quella che fu la risposta della popolazione italiana. Oggi parlare di colonie complesse, io ho qualche capello bianco, iniziali che non li avevo bianchi, li avevo più lunghi, non avevo le lunghe, ed era diverso studiare le colonie, perché poteva accadere che eventualmente in un'iniziativa così arrivasse qualche vecchio nostalgico, qualche anziano intervenisse a contestare, senza mai uscire dal seminato di quello che dicevo io, anche con molto rispetto, però spesso accadevano le contestazioni. Oggi siamo su un altro piano. Un paio d'anni che quando vengono organizzate iniziative di questo tipo c'è anche il timore di aggressioni, e quindi non più anziani che vengono a dire la loro, ma giovanotti che rivendicano nel 2019 la politica coloniale del fascismo, quindi non negano come gli anziani, ma rivendicano pienamente quello che è successo. Quindi oggi parlare di certe cose, come i miei colleghi e amici che parlano di foibe, è diventato molto complesso e in alcuni lati scomodo. Parleremo del fascismo, ma abbiate pazienza, dato che le cose sono molto attuali. Parto dall'oggi. Un paio di settimane fa abbiamo sentito i nostri due vice premier parlare del colonialismo francese, colonialismo, neocolonialismo, il fatto che la Francia abbia un'egemonia sull'Africa occidentale, che utilizzi il franco francese nelle sue ex colonie. Tutto condivisibile, nessuno ha mai negato il ruolo di dominio della Francia. Certo, usare la parola colonialismo, neocolonialismo denota parecchia ignoranza, perché la parola colonialismo nasce come neologismo dopo la Seconda Guerra Mondiale per definire un periodo storico concluso, finito. E quindi noi storici ci occupiamo di colonialismo, ma appunto ci occupiamo di una cosa passata. Neocolonialismo è una categoria debole, insomma, quando noi usiamo degli ismi e all'ismo aggiungiamo un prefisso, vuol dire che non abbiamo delle categorie interpretative ben chiare. Quindi colonialismo è una parola che va bene per studiare il passato, neocolonialismo è una parola proprio priva di senso. Quindi i nostri due vice premier già hanno utilizzato due parole che uno studioso non utilizzerebbe. Io parlo di colonialismo, ma sto parlando, inizierò a parlarvi del 35, non di quello che succede oggi. Un'altra cosa che denota parecchia ignoranza da parte dei nostri vice premier: i francesi non utilizzano mai la parola colonialismo, ma colonizzazione. Questo si presta a una grandissima critica, perché il colonialismo, ripeto, è un neologismo, definisce un periodo storico finito, colonizzazione è un processo in divenire, in evoluzione, qualcosa che c'è ancora. Quindi potremmo addirittura accrescere la critica verso i nostri vicini, dicendo: signori, voi usate una parola ma inconsciamente, quindi non considerate quella parentesi storica finita. Ma vorrebbe dire chiedere troppo ai nostri governanti. Ma queste, sapete, sono critiche di forma, lasciamo il tempo che trovano. A tutti è sfuggita una cosa della gravità sostanziale di queste affermazioni, per cui possiamo tranquillamente dire che Di Maio e Salvini siano spinti ben oltre il nazionalismo, e non dico altro. Queste affermazioni sono state fatte nel giorno in cui si è tenuta la visita ufficiale del nuovo presidente etiope in Italia. Questo nessuno l'ha notato. E questa è di una gravità immane. Se ricordiamo il viaggio di Haile Selassie per la Torre d'Etiopia nel 1970, il primo viaggio dopo, non dopo che l'Etiopia fu nostra colonia, fu accolto in modo rispettoso. Sul nostro passato coloniale ci fu un silente rispetto, potremmo dire, però non si parlò degli altri colonialismi per tacere il nostro, che è una cosa disgustosa. Nel 2000 nel 2001 Oscar Luigi Scalfaro andò in Etiopia e in una conferenza all'Università di Addis Abeba chiese scusa agli studiosi, chiede scusa al popolo etiope e ai governanti etiopici. Questo giusto per capire la differenza tra una classe dirigente di un certo calibro o degli improvvisati volgari oltre al nazionalismo di quelli che ci troviamo oggi. Quindi per quanto mi compete, quello che vediamo di fronte ai nostri occhi oggi è di una gravità estrema. Nasconde le proprie responsabilità storiche, attaccando e accusando gli altri, non si è mai visto da parte di nessun esecutivo di potenza ex coloniale. Guardate, non dobbiamo parlare dell'oggi, facciamo qualche passo indietro. Allora, il mio intervento si dipanerà nel modo seguente. Vi parlo di Libia, vi parlo di Etiopia, nel titolo c'era un piccolo errore, quindi non vi parlerò dell'Eritrea se non vi parlerò di accenni, e vi parlerò del fascismo in colonia e dell'antifascismo. E quindi non vi parlerò di stragi e ferratezze, ecco, diciamo che per molti versi sarà un intervento sulla storia politica e sulla storia militare. Allora, se parliamo di fascismo in colonia, dobbiamo sapere innanzitutto quali erano le nostre colonie. Il fascismo prende potere nel 1922, le nostre colonie sono la Somalia italiana, il Dodecaneso o Dodecaneso, la Libia divisa in Tripolitania, Cirenaica e Fezzan, sono le tre grosse regioni. Abbiamo la colonia Eritrea, l'Etiopia non c'è ancora, verrà conquistata dopo qualche anno. Comunque, diciamo che quello che era l'ex impero etiopico prenderà il nome di Africa orientale italiana e verrà diviso in quattro regioni: Shoah, Gala, Sidama, Harar e Jimma. Scusate, Amara. Se vogliamo capire il fascismo in colonia, dobbiamo fare delle distinzioni rispetto alla storia italiana, differenze molto importanti. Il fascismo costruisce una società coloniale senza fare compromessi, non ci sono compromessi da fare con le strutture di potere antecedenti. In colonia viene costruita una società totalitaria che in Italia non era stato possibile fare. Al fascismo, magari qualcuno si stupisce, ma è ormai assodato dagli studiosi che il fascismo sia stato un totalitarismo imperfetto, non aveva il controllo totale della società italiana, non aveva il controllo nei quartieri operai, pensiamo a Sesto San Giovanni, certo comandava il fascismo ma non aveva il consenso, pensiamo ai contesti di campagna, montagna, pensiamo all'arco alpino trentino, insomma, in tante zone il fascismo c'era solamente di forma, non di sostanza. Pensiamo anche ad alcune istituzioni che non furono completamente fascistizzate. L'esercito, ad esempio, le forze armate non furono completamente fascistizzate. Questo è anche importante ai fini del nostro discorso, perché stiamo parlando di militari innanzitutto. In Italia quindi il fascismo prende il potere ma deve scendere a compromessi, oppure non spingersi oltre un certo livello. In colonia questo no, non c'è. In colonia c'è una società, certo nel presente, ma ai bianchi non serve, non interessa. I bianchi occupano i paesi e mettono in margine la popolazione locale. Il fascismo in colonia è in grado di costruire una società totalitaria, ripeto, anche con delle istituzioni. Vi faccio qualche esempio: il Partito Nazionale Fascista, Libia e Etiopia, l'organizzazione dello Stato in tanti casi viene sostituita dall'organizzazione del partito, dalle federazioni del Partito Nazionale Fascista. Parte rilevante ce l'avrà la Polizia dell'Africa Italiana. La Polizia dell'Africa Italiana è una struttura creata dal fascismo, anche con una divisa degli armamenti particolari, poi scendendo sotto tutti questi aspetti si coglie quanto fosse ideologizzato un corpo rispetto ad altri. L'OVRA, opera volontaria per la repressione dell'antifascismo, così si dice, c'è il tentativo di istituire l'opera sull'impero e con il quale fu mandato in Etiopia a costituire l'opera è mano libera di fare tutto quello che poteva fare un comandante dell'opera. Un'altra istituzione ben presente fu la milizia volontaria per la sicurezza nazionale. In tanti casi c'è proprio una confusione nella gestione dei poteri. Altri tipi di istituzioni cercavano di coinvolgere i lavoratori, gli operai, pensiamo ai campi di lavoro, gli operai si trasferiscono in colonia ma non hanno libertà di movimento e possono vivere solo in luoghi ristretti, controllati dal partito e ovviamente se non si è del partito quei posti li bisogna lasciare. È una società fascista per la colonia, una società fascista perché ci sono questi enti, una società dove gli italiani vivono in modo isolato, costruiscono le città per i bianchi e la città per i neri, da una parte i bianchi, dall'altra parte i neri. Scusate, rettifico, costruiscono la città per i bianchi, i neri vengono espulsi, non interessa, l'importante che non stiano a contatto con i bianchi. Attilio Peruzzi, sottosegretario dell'Africa italiana, parlerà di convivenza senza promiscuità. E la parola apartheid dagli ex colonialisti verrà usata fino alla metà degli anni 50 come rivendicare una politica tutto sommato umana che era ancora in vigore in Sudafrica dopo la seconda guerra mondiale. Quindi è una società totalitaria, isolata, anche isolazionista. In colonia vengono fatte le prime leggi razziali. 2 anni prima che vengano promulgate le leggi in Italia, vengono promulgate in colonia. Proibizioni di matrimoni, punizioni anche relativamente al madamato, alle semplici convivenze. Il madamato era un contratto che facevano i soldati italiani con le donne del luogo, un contratto che si faceva, era un contratto di tipo consuetudinario, si firmava un rapporto tra uomo e donna, non è prostituzione, il madamato fa parte della tradizione etiope. E niente, si sanciva la modalità del rapporto che doveva esserci tra uomo e donna, la durata, eccetera. Questo viene proibito dalle leggi razziali. Il fascismo costruisce una società totalitaria, ma la gestione del potere non funziona mai in maniera lineare, assolutamente. Molte delle politiche di occupazione erano demandate alle autorità militari. Ripeto, le autorità militari non sono fascistizzate e quindi subentrano conflitti. Conflitti tra chi deve comandare e progettare le operazioni militari, conflitti tra chi comanda queste operazioni e chi siede ad Addis Abeba, conflitti tra chi siede ad Addis Abeba e chi sta a Roma, ma a Roma chi ci sta? Il Ministero della Guerra, il Ministero dell'Africa Italiana, e qua c'è Mussolini, e poi magari c'è anche il re, e quindi c'è una gestione poco concludente, e quindi vengono avanti malaffare, clientele, rapporti che non sempre si decifrano da telegrammi ufficiali, ma da belline che erano raccomandazioni, cose di questo tipo. Tutto questo si aggrava alla politica di fondo che Mussolini aveva non solo in colonia ma in tutto il paese, la gestione diarchica dei poteri. Mussolini sotto di sé aveva sempre 2 persone, non lo gestiva in maniera onnicomprensiva il suo potere, le mandava spesso a 2 sotto di lui in maniera tale che si scornassero e al momento opportuno lui potesse intervenire per mediare e fare da paciere e tutto sommato alla fine avere sempre l'ultima parola. Quindi il fascismo costruisce una società per i bianchi, esclude gli indigeni e promulga delle leggi particolari che in Italia non ci sono. Il colonialismo fascista, dobbiamo aggiungere, ha una impostazione che è quella del colonialismo demografico, per le parole d'ordine e le modalità di gestione. Ciò non significa che nelle colonie andavano migliaia e migliaia di persone, non sto dicendo questo, sto dicendo nella teoria il fascismo applica quello che per la teoria coloniale il colonialismo demografico. In sostanza, il colonialismo demografico significa che io occupo un paese, ho una colonia, la occupo perché ho eccessiva pressione demografica nell'area metropolitana, ho tanti disoccupati, devo far uscire un po' di persone, e quindi se occupo una colonia, questa colonia sarà per i bianchi, non certo per le popolazioni locali. Ecco che capiamo perché il colonialismo del Novecento è così brutale in certi contesti. Io occupo la colonia non è per la popolazione locale la si sposta, la si stermina, la si massacra. E quindi è quello che vi ho detto rispetto alla costruzione di uno Stato fascista in colonia, dobbiamo aggiungere, ma solamente come riferimento, l'estrema violenza a cui furono assoggettate le popolazioni locali. Violenze che in due casi dagli storici sono state definite come vero e proprio genocidio. E mi riferisco alla deportazione della popolazione libica nel 30 e alle repressioni in Etiopia nel 1937. Per parlare di genocidio, non è che se si ammazzano tante persone siamo di fronte al genocidio, intendiamoci. C'è una disciplina che prende il nome di sociologia dei genocidi. Un genocidio deve rispondere per essere tale a cinque interrogativi. Si parla di genocidio se vi è un progetto, e quindi capite, un massacro è una cosa immediata, si va in un villaggio, si mitraglia, si brucia, si uccide, c'è la progettazione di un rastrellamento, non di un massacro tutto in un villaggio. E quindi un genocidio richiede un progetto. La seconda tappa di un genocidio è la deportazione delle persone prese di mira. Devono essere prese e portate da qualche parte. La terza domanda a cui deve rispondere in questione del genocidio è poi questi che vengono deportati verranno uccisi. Certo, non vengono deportati, basta. Quarta cosa, si parla di genocidio se le proprietà precedentemente appartenute alle persone deportate e uccise vengono espropriate. E quindi c'è anche un interesse di tipo economico. Quinta cosa, si parla di genocidio se tutto questo viene condotto nell'impunità totale. E quindi la Shoah fu un genocidio perché fu condotto nella totale impunità da parte delle autorità tedesche. Furono perseguiti alcuni dei responsabili nel dopoguerra, ma non dallo Stato germanico. Le cinque cose che vi ho detto possono essere anche scomode, intendiamoci. Alcuni sostengono, ad esempio, che il genocidio dei curdi non possa essere definito tale perché coloro i quali lo progettarono, deportarono, uccisero e si accaparrarono i beni dei curdi, poi furono condannati da tribunali dello Stato turco, scusatemi. Quindi per parecchi storici turchi, ad esempio, non si può parlare di genocidio dei curdi. Ma non entro in questa discussione perché non mi riguarda. Quindi il fascismo costruisce una società totalitaria e in colonia vi riesce, vi dedica leggi speciali, altrimenti è uno Stato totalitario, non credo sulla violenza, devo avere anche una legittimazione giuridica. E in queste colonie vengono fatte cose che sul territorio metropolitano non ci si era mai azzardati a fare. Ma questo è un continuum della storia coloniale, se è chiaro. I campi di concentramento nascono in Africa nella guerra anglo-boera, cioè prima costruire campi di concentramento e adottare politiche di deportazione e internamento su popolazioni intere, sono gli europei che lo fanno in Africa, o contro gli stessi europei o contro gli africani. E quindi credo di avervi detto abbastanza sulla costruzione dello Stato fascista in colonia. È ovvio e pronastico dircelo, ma come in altri contesti nacquero movimenti di opposizione, questo accade anche in colonia. Ma l'antifascismo in colonia evidentemente lo dobbiamo vedere sotto due risvolti. L'antifascismo delle popolazioni locali, l'antifascismo degli italiani. Ma diciamo che per fare uno studio dell'antifascismo... Si sente? La parte. Per fare uno studio dell'antifascismo italiano in colonia, che nessuno ha mai provato a fare, si devono intraprendere dei percorsi molto tortuosi nella ricerca. Perché? Perché se io ho delle testimonianze da parte degli antifascisti, le devo andare a cercare in certi archivi, tra le carte disperse nelle famiglie, eccetera. Se sono documenti di tipo istituzionale, cioè che arrivano dalle strutture di potere, beh, sono sempre carte di polizia, dei carabinieri, della polizia dell'Africa italiana, dell'OVRA, e quindi vanno trattate in un certo modo. Poi non so se avete presente una cosa che vi ho detto prima, la società coloniale è piena di clientele, corruzione, interessi, gruppi che vanno e vengono, e quindi uno degli strumenti per accusare una persona che non andava bene o scomoda era quello di accusare di antifascismo, di essere andato con una donna locale, di aver rubato qualcosa, ecco. Quindi tante volte nelle carte di polizia se troviamo dei riferimenti a posizioni espresse da un soldato o da un lavoratore, eccetera, dobbiamo stare attenti. Tanto per intenderci, ci sono dei dossier, non so, quello più noto, quello su Enrico Cuccia, che fu direttore della Mediabarca per tanto tempo. Enrico Cuccia fu cacciato dalle colonie per volere del viceré. Nelle carte sembra quasi che avesse fatto speculazioni sulle monete, eccetera, ma probabilmente era semplicemente una persona che non andava bene al viceré perché ambiva a mettere le mani dove non avrebbe dovuto. Quindi dobbiamo stare attenti quando studiamo l'antifascismo in colonia. Io provai anni fa, come strumento di indagine, a fare una ricerca sul casellario politico centrale. Il casellario politico centrale è questo grosso archivio ripartito in fascicoli dove venivano schedati tutti gli antifascisti. In questo casellario politico centrale si può fare una ricerca sul luogo di residenza, di nascita, eccetera. E iniziai a condurre questo percorso di ricerca fino a quando non arrivai alla lettera D di tutti questi antifascisti schedati, perché alla lettera D più la U ritroviamo Domini. Domini è uno degli assassini di Matteotti. Domini ricevette come premio per aver ucciso Matteotti degli appezzamenti di terreno in Somalia, poi in Libia, e Amerigo Domini è schedato come antifascista. Quindi ecco, bisogna un po' fare attenzione quando si maneggiano queste carte, ma per dire appunto che insomma bisognerebbe fare una storia sociale delle colonie per arrivare a ricostruire eventuali fenomeni di opposizione al regime coloniale. Detto questo, comunque è fuori discussione che da parte degli italiani si trattò di poco. Non c'è un movimento antifascista tra gli italiani, né in Liga né in Italia. Non si costituisce un movimento di opposizione. Perché? Perché comunque in colonia si sta bene. In colonia ci si possono permettere delle cose che in Italia evidentemente non ci sono. E quindi perché contestare un regime, un potere che tutto sommato ha garantito un minimo di ascesa sociale? Considerate che un padroncino, un autista di furgone, quelli che facevano le consegne, arrivava a guadagnare tra le 10 e le 12 mila lire al mese. Un furgoncino costava 20 mila lire. Per farvi capire, cioè provate a rapportarlo con chi guida un camion oggi, quello parcheggiato qui di fronte, quanto costa e quanto l'autista deve lavorare per pagarsi. Perché in Etiopia in 3 mesi di lavoro ci si pagava il camioncino, figuratevi. E quindi anche tutti questi che partirono magari agnostici alla politica o magari anche contrari al regime, si trovarono a vivere un'esperienza incredibile, incredibile. E poi si è in Africa. E poi, insomma, al di là delle leggi che restringevano i rapporti tra italiani o indigeni, insomma, in un qualche modo si potevano avere dei rapporti. Quindi sì, tra le carte ci sono degli elementi che vengono espulsi, però vi assicuro, io ho guardato in rassegna tutte le sentenze dei tribunali militari dell'Africa orientale italiana, sono migliaia di sentenze, processi e sentenze, non ce n'è una contro persone ritenute antifasciste. I reati sono sempre relativi a rifiuto d'ubbidienza, resistenza, eccetera, ma non vengono mai delineati come movimenti dal contenuto dichiaratamente politico. Per la popolazione locale le cose sono diverse. E quando io parlo di queste cose lo dico sempre, guardate bene, siamo a migliaia di chilometri di distanza, ma se teniamo a mente alcuni aspetti della resistenza nostra, capiamo tranquillamente le dinamiche di quello che succedeva in Africa. Consideriamo che oggi viviamo su due piani decisamente più asimmetrici di quelli che c'erano all'epoca, no? Appunto, mi immagino, parlavamo prima di automobile, qui che un contadino oggi ha tutta la tecnologia, un sacco di attrezzi, un sacco di macchine. Io mi immagino un contadino della Brianza che va in Etiopia oggi e vede questi poveri contadini che hanno ancora il bue, hanno ancora un aratro pre-seconda rivoluzione agricola, e quindi il nostro contadino sembra quasi un ingegnere che lavora con cose supersoniche. L'etiope è rimasto lì. All'epoca questa simmetria era molto meno, perché se pensate al contadino lombardo del 35 che partiva per andare in Etiopia, mi rimarrà per sempre in mente questo piemontese, sì, contadino, che parte, va, arriva a Napoli e scrive a casa a dire: io non so cosa troverò in Africa, ma l'Africa l'abbiamo già trovata qui. Per dire quanto potevano essere i livelli di differenza, di ignoranza, eccetera. E probabilmente, recandosi in Africa, capirono che la situazione non era decisamente come gli veniva descritta. Furono tanti gli italiani mandati, ad esempio in Etiopia furono 650.000 gli italiani mandati in 2 anni, tra soldati, operai, e quindi è interessante che non emergano voci di dissenso, proteste. Possiamo veramente calcolare sulle dita di una mano i gesti contro il regime. A Suez probabilmente c'era una cellula del Partito Comunista d'Italia che operava a fare propaganda tra i soldati che erano diretti in Africa. E sì, furono trovati 2 volantini, un pacchetto di fiammiferi con dentro un bigliettino di propaganda antifascista. E probabilmente se vengono segnalate queste cose dalla polizia, perché non c'era nient'altro, si arrivavano a beccare queste cose. Voilà, comunque, tra la popolazione locale diventa diversa la cosa. Vi parlo prima della Libia. La Libia è colonia italiana dal 1911, evidentemente parto dal 22. Il 22 ottobre del 1922 il fascismo prende il potere. Ma relativamente alla Libia non dobbiamo dimenticare che da metà settembre aveva preso avvio, su ordine del ministro degli esteri Amendola, una serie di operazioni militari che poi con il regime fascista prenderanno il nome di riconquista o pacificazione. la Libia negli anni 20 vedrà un grosso impegno da parte delle forze armate italiane nella, diciamo, occupazione del territorio e nella distruzione dell'opposizione locale. La Libia, vi ho detto, è divisa in tre parti: Tripolitania, che è la parte occidentale, nord-occidentale. La riconquista della Tripolitania comincia nel 22, appunto nel settembre, e terminerà nel 1926. La conquista della Tripolitania verrà fatta con grandi mezzi, grande tecnologia rispetto all'epoca e con una grossissima efficienza, perché siamo di fronte a delle operazioni militari per la prima volta in cui vengono coordinate le truppe di terra con le truppe aeree. E questo permetterà una occupazione celere e senza neanche tante perdite. Diversamente accadrà in Cirenaica. La Cirenaica, l'occupazione, la riconquista prenderà un po' più di anni, dal 22 al 29, e nel 29 non sarà portata a termine, quindi potremmo tranquillamente dire 31 come anno, e anche se la riconquista comincia nel 22, sarà nel 26 con l'arrivo di Terruzzi al governatore della Cirenaica, che avrà insomma impostata una politica diversa, più dura. E poi c'è Fezzan, ma quello verrà occupato in un secondo momento. In Libia opera Omar al-Mukhtar. Omar al-Mukhtar era un anziano, sessantenne, maestro di scuola coranica, che in una società tradizionale come quella dei beduini seminomadi rivestiva un ruolo importante, gli anziani erano rispettati. Omar al-Mukhtar aveva molto carisma nei confronti dei giovani. Grazie al suo seguito proclamò una jihad, una guerra santa contro gli italiani. Tra l'altro il nome di Omar al-Mukhtar negli ultimi anni è ricomparso parecchio. Le prime volte in rivendicazioni fatte dall'opposizione irachena all'occupazione statunitense, quando gli statunitensi venivano falcidiati da una marea di attentati lungo la strada Baghdad aeroporto, autostrada di YouTube, da anche una giornalista italiana del manifesto, e in alcuni momenti, dopo una serie di attentati, vi furono rivendicazioni in cui si citò Omar al-Mukhtar come il padre fondatore della nazione araba, e quindi Omar al-Mukhtar non più visto come nazionalista libico, ma come una figura che potesse aver anticipato il panislamismo con largo anticipo. Su Omar al-Mukhtar esiste un film, Il leone del deserto, lo trovate facilmente in internet. La vicenda di questo film è alquanto vergognosa. Un film rimasto censurato in Italia per tanti anni, semplicemente perché non passò mai il visto della censura. E quindi capitò in diverse occasioni di presentare questo film, di fare conferenze, eccetera, e poi di trovarsi i carabinieri e polizia a chiedere documenti ai presenti e a denunciare gli organizzatori, in quanto film non visionato dalla censura. Non è granché come film, però di fatto è l'unico che abbiamo su questa vicenda. Ovviamente è una produzione libica, e quindi è ovvio che il ruolo dei libici deve essere in un qualche modo esaltato. È una produzione libica dell'epoca di Gheddafi, quindi ci sono dei richiami anche al regime del colonnello, che si voleva in continuità con l'esperienza di Omar al-Mukhtar. Ebbene, Omar in quasi 10 anni si scontrerà con gli italiani 53 volte, ci saranno 53 combattimenti. e 200 azioni minori. La Cirenaica è un altipiano, il terreno è percorribile più difficilmente della Tripolitania. La Tripolitania, come ho detto, fu pacificata con operazioni di terra e aeree. La Cirenaica no, non poteva essere conquistata occupando il terreno, senza vie, senza strade, senza vie di comunicazione, senza ferrovie, eccetera. Quindi nel 1930 Badoglio, governatore di Libia, e Graziani, vice governatore, decisero di deportare tutta la popolazione della Cirenaica in campi di concentramenti collocati lungo la costa, sempre in Cirenaica. Ci fu una prima deportazione, si parla grosso modo di 120.000 persone. La Libia, che oggi è un paese che ha una bassissima pressione demografica, all'epoca la popolazione era proprio poca. Quindi 120.000 persone vennero prese e deportate. A questa prima deportazione ne seguì una seconda. I cirenaici furono collocati a quel punto in campi di concentramento del tutto isolati, in zone desertiche, perché lo scopo era quello di privare il contatto dei guerriglieri, gli Omar al-Mukhtar, con la popolazione. Quindi la Cirenaica divenne un deserto umano. Questo nel 30. Omar al-Mukhtar era un beduino, è difficile controllare o fermare i beduini nel deserto. E quindi, non riuscendo ad avere la meglio, su una banda che oramai non raggiungeva le 600 unità, Graziani fece costruire un reticolato lungo il confine tra Libia ed Egitto, un reticolato che in parte lo trovate ancora, un reticolato di 294 chilometri, filo spinato, pali, torrette di controllo, autocarri, aerei per presidiare tutto il confine. Perché a quel punto Omar al-Mukhtar non aveva più contatto con la sua gente e ricorreva al contrabbando e agli aiuti provenienti dall'Egitto. Tempo pochi mesi, a quel punto fu levato ogni possibilità di resistere a Omar al-Mukhtar. Fu catturato il 12 settembre del 1931 e quattro giorni dopo un processo farsa, però a ben vedere poteva riconoscere le sue responsabilità, processo farsa perché era già scritto, però voglio dire, da parte di un tribunale volante militare italiano c'erano tutti gli elementi per condannare a morte una persona. La cosa raccapricciante non fu la condanna a morte, fu l'esecuzione della condanna a morte. Omar al-Mukhtar fu impiccato nel campo di concentramento di Soluk di fronte alla sua gente, che quel giorno fu obbligata ad assistere all'impiccagione. Tra l'altro, sull'impiccagione in Libia potremmo fare anche un lungo discorso, c'è una certa estetica nell'uccidere le persone, perché si impicca e non si fucila. Si impicca in Libia perché i musulmani credono nell'ascesa delle anime, e se io impicco una persona, l'anima che ascende non ascende più dall'alto, ma può solamente lasciare il corpo umano da parti del corpo per cui l'anima non viene più considerata pura, ok? E quindi c'è anche uno studio nel degradare e nel mutilare un po'. Per 10 anni Omar al-Mukhtar condusse una dura resistenza all'occupazione italiana. L'organizzazione guerrigliera era ben strutturata. Una zawia, comunità di civili, forniva l'organizzazione militare, viveri, animali, armi, munizioni, soprattutto giovani combattenti che costituivano un dor, ovvero sia un gruppo di armati sempre in movimento che viveva in accampamenti fatti di tende. La difesa degli accampamenti e per controllare il territorio, i Duar avevano a disposizione diverse vedette chiamate Caracol. Tutto questo era organizzato e tenuto insieme dalla Senussia. La Senussia era un'organizzazione di tipo politico-religioso. La Senussia era un'organizzazione di tipo tradizionale, nata durante l'occupazione dell'impero ottomano per gestire i territori, perché l'occupazione ottomana era solamente formale. Dagli ottomani si chiedeva, gli ottomani chiedevano semplicemente tributi, tasse, poi la gestione politica, amministrativa loro non interessava. Quindi la Libia era fondamentalmente gestita da questa Senussia. E questa Senussia, durante l'occupazione italiana, si trasformò in un'organizzazione non più solo politica, economica, religiosa, ma anche militare. Ebbene, la Libia, dopo l'uccisione di Omar al-Mukhtar, perse la figura che era in grado di coagulare tutta l'opposizione. A quel punto non ci fu più alcun fenomeno di resistenza, i campi vennero smantellati, la popolazione non tornò sul Gebel Cirenaico e tra il censimento prima di questo evento al censimento fatto dopo mancano 80.000 anime. Quindi questa deportazione, stando ai censimenti precedenti l'occupazione italiana e al primo censimento fatto successivamente alla deportazione, la deportazione costò 80.000 vittime. Non c'erano i campi di sterminio dei tedeschi, sono campi di concentramento, la gente viene portata e dimenticata. In zone desertiche senza acqua e cibo non bisogna avere le camere a gas per sterminare. Si fanno morire. C'è un bel libro a questo proposito di testimonianze raccolte tra i sopravvissuti in Libia, pubblicato in Italia, e insomma vengono fuori delle scene piuttosto raccapriccianti. Ma tant'è, la resistenza libica era messa a tacere, ma ripeto, viene messa a tacere avendo condotto una serie di pratiche che vi ho detto. In Etiopia le cose sono decisamente più complicate. L'Etiopia viene conquistata nel 1936, quindi più di 10 anni dopo, con un regime ormai maturo. È un regime che deve costruirsi un'identità fascista, ormai maturo. Probabilmente ai più sfugge che il partito fascista chiuse il tesseramento alla fine degli anni 20 e poi lo riaprì. Quindi alla crescita iniziale ci fu una chiusura, una ricostruzione, un ripensamento dei poteri interni del partito e poi ci fu una nuova infornata di una nuova generazione. Io li chiamo i fratelli minori di quelli che fecero la prima guerra mondiale. Persone che a quel punto, dopo che gli era stato narrato all'Africa per anni nella prima guerra mondiale, beh, andare a combattere per il fascismo in Etiopia non poteva essere che uno sbocco naturale. Si occupa l'Etiopia. Riprendo un ragionamento che vi ho fatto all'inizio. Non si riconosce la società locale, si arriva e se ne impone uno. L'Etiopia è a quel punto nel 1935 l'unico stato indipendente in Africa, tranne la Liberia, ma è uno statarello di poca importanza. L'Etiopia è membro della Società delle Nazioni, come la Francia, come l'Italia, come la Gran Bretagna. L'Etiopia ha una struttura sociale, feudale, arcaica, ma antichissima. Seppure l'imperatore Haile Selassie è il secondo, terzo imperatore che unifica il territorio, perché l'Etiopia fu per secoli e secoli terra di signori della guerra che si scannarono in continuazione. E anche questo lo dobbiamo tenere conto, perché l'Etiopia è un paese con un popolo guerriero costantemente in armi. Era, evidentemente, non adesso. Quindi ci troviamo di fronte a uno stato premoderno, a uno stato precapitalistico, ma uno stato che da un certo punto di vista è di una modernità incredibile, è nella società delle nazioni. Si parla di patria, se noi leggiamo i documenti, i volantini, si parla di patria, un concetto del tutto europeo e del tutto contemporaneo. E quindi l'Etiopia è un paese, direi, che bisogna vedere in modo sincretico, ha degli elementi di modernità, degli elementi di arretratezza e delle diversità di fondo rispetto alla cultura europea che sono importanti. Parlare di quello che è successo in Etiopia è molto importante perché anche in un qualche modo noi da parte nostra dell'Arpi, io sono socio Arpi, ecco, nel curriculum non è stato detto questo, da parte dell'Arpi è importante ricordare queste cose perché il popolo etiope è stato il primo popolo a sconfiggere il fascismo, 1941, ben prima di Stalingrado, ben prima di Leningrado, ben prima delle controffensive nell'est Europa, i primi a sconfiggere il fascismo. E guardate che la vittoria degli etiopi nel 1941 dal punto di vista militare è la prima vittoria sul campo dalla battaglia di Guadalajara nella guerra di Spagna del 1937, una delle poche battaglie vinte in maniera chiara e netta durante la guerra civile di Spagna. Quindi diciamo che siamo in anni in cui le potenze nazifasciste predominano, si espandono e non trovano un'efficace risposta sul terreno. Ebbene, gli etiopi sono i primi a sconfiggere una potenza fascista, gli etiopi sono i primi a decolonizzarsi e quindi lanciano anche un messaggio al mondo. Lo lanciavano allora e ce lo lanciano ancora oggi. L'ultimo paese a essere stato decolonizzato, scusatemi, l'ultimo paese in Africa a essere occupato è il primo paese a decolonizzarsi, con una lotta di anni. E quindi ecco perché è importante ricordare il sacrificio del popolo etiope. Il popolo etiope si ribellò, non aveva altro da fare di fronte all'impostazione di uno Stato e di una società totalitaria. Allora in Etiopia sono cristiani, copti, ortodossi e ci sarebbe potuto essere un punto di contatto molto importante con la cultura italiana. Ma tant'è, Mussolini non andrà mai in Etiopia, il re non andrà mai in Etiopia, però Mussolini andrà a Tripoli dove si farà fotografare su un cavallo bianco sfoderando la sciabola dell'Islam. Quindi in un qualche modo il fascismo prende una serie di scelte per complicarsi e per complicare. E questo è veramente difficile da capire, l'unica cosa che non ho capito in tutti gli anni di studio, in tutte le cose che ho affrontato e che sono riuscito a capire. Mi sono sempre chiesto perché il fascismo abbia intrapreso la strada più difficile e evidentemente senza una via d'uscita. Probabilmente non interessava sotto nessun punto di vista riconoscere il popolo etiope. Addis Abeba verrà occupata il 5 maggio del 1936 e Badoglio e Graziani come prima cosa chiedono a Mussolini alcuni elementi fondamentali su come gestire il potere, come ci si relaziona con le classi dirigenti, con il notabilato locale. E, tra l'altro, Badoglio e Graziani arrivano dalla Libia, hanno pacificato la Libia. Badoglio e Graziani sanno, e lo sono un po' noioso per un giovane, ma grazie di essere venuto. Troppo giovane. Troppo giovane. Badoglio e Graziani sono quelli che hanno deportato, hanno massacrato la Libia, ma hanno pacificato la Libia. Badoglio e Graziani interrogano tutta la popolazione della Cirenaica, ma scendono a patti con alcuni dei notabili in Tripolitania. In Libia non si stermina tutta la popolazione, vi ho dato dei numeri ben precisi. Ci sono dei collaborazionisti in Libia. E mi piove le cose, ma diversamente. Mussolini telegraferà il 6 maggio, il giorno dopo l'occupazione di Addis Abeba, che, visto che gli abissini continuano ad impiegare pallottole dum dum, autorizzo Vostra Eccellenza, se lo ritiene necessario, all'impiego dei gas a titolo di rappresaglia. Le pallottole dum dum sono dei proiettili su cui viene fatta incisa una X in maniera tale che il proiettile si rompa e si frammenti e non può essere più estratto da una normale operazione chirurgica. Sono pallottole proibite dalle convenzioni internazionali. Gli italiani cosa dicono? Date cosa per pallottole, noi usiamo pure i gas. Occupata di Sabeba, Vostra Eccellenza darà ordini perché: primo, siano fucilati sommariamente tutti coloro che in città o dintorni siano sorpresi con le armi in mano. Due, siano fucilati sommariamente tutti i cosiddetti giovani etiopi, barbari, crudeli e pretenziosi, autori morali dei saccheggi. Tre, siano fucilati quanti abbiano partecipato a violenze, saccheggi, incendi. Quattro, siano sommariamente fucilati. Scusate, sommariamente vuol dire che non c'è un processo, non vuol dire che non c'è neanche un tribunale militare volante, vuol dire per niente. Quattro, siano sommariamente fucilati quanti trascorsi 24 ore non abbiano consegnato armi da fuoco e munizioni. Attendo una parola che confermi che questi ordini saranno, come sempre, eseguiti. Altro telegramma: tutti i ribelli fatti prigionieri devono essere passati per le armi. Altro telegramma: autorizzo ancora una volta Vostra Eccellenza ad iniziare e condurre sistematicamente politica del terrore e dello sterminio contro i ribelli e le popolazioni complici. Senza la legge del taglione al decuplo non si sana la piaga in tempo utile. Quindi queste sono le direttive di Mussolini. Graziani non altro che a quel punto obbedire agli ordini. Obbedire significa occupare un territorio, perché se arrivate da Addis Abeba, 9 decimi dell'Etiopia, occupata il territorio, ma cosa ce ne si fa delle persone? Gli etiopi reagiranno in modo vigoroso. Devo darvi qualche elemento di dati. Addis Abeba viene occupata nel maggio del 1936. Fino all'autunno del 1936 ci sono ancora le vecchie armate dell'impero in circolazione sul territorio. Ras Mirua e Ras Lestano, due corpi d'armata piuttosto nutriti al sud dell'Etiopia. E poi ci sono una serie di piccoli gruppi, shifta, banditi, che non sono più organizzati, ma evidentemente sono sul territorio. Quindi i primi mesi del 1936 la seconda parte del 1936, gli estivi autunnali, vedono la presenza di piccole azioni, di piccole bande di banditi, qualche capo locale o queste due armate in circolazione a sud. I mesi invernali verranno utilizzati per occupare tutta l'Etiopia. Questo non verrà fatto prima, perché l'estate c'è la stagione delle piogge, quindi si arriva da Addis Abeba, fondamentalmente per 3 mesi l'occupazione italiana è limitata alla capitale. Nei mesi invernali ci sarà l'occupazione integrale del territorio e dopo succede un episodio per cui tutto tracollerà. Il 17 febbraio del 1937 Rodolfo Graziani, viceré, subirà un attentato e a questo attentato seguirà una repressione di mesi e mesi che porterà a 3 giorni di massacri e sterminio da Addis Abeba, cioè qualsiasi persona di colore trovata in circolazione veniva uccisa. Si parla di 9.000 morti in 3 giorni, ci sono le fotografie di cataste di corpi umani. Dopo le repressioni verranno portate al di fuori di Addis Abeba e verranno colpite le regioni vicine. La repressione non servirà per stroncare l'opposizione, che a quel punto monta, cresce. Graziani verrà richiamato in Italia alla fine del 1937 e verrà sostituito da Amedeo di Savoia, che rimarrà fino alla fine. Non approfondisco dati sulle personalità, eccetera, avevo dato questi dati che sono da parte italiana. Quindi i primi mesi, una fase di stallo, dopo occupazione integrale dell'impero, a questa seguirà una violenza causata dall'attentato Graziani e dopodiché ci sarà la fase di Amedeo di Savoia, nuovo vicere. Ma questo è per quanto riguarda le tempistiche italiane. Guardiamo gli etiopi. E però vi leggo a questo punto così nomi e date le riesco a dire meglio. Dopo l'occupazione di Addis Abeba nel maggio del 1936, alcuni tra i più importanti e capaci condottieri delle armate etiopiche, Rassi Nirù, eminenti personalità politiche come il presidente del Senato Blatta Wolde Zadek, le figure di primissimo piano della Chiesa copta come la Buna Mikael, tra virgolette il Papa per gli etiopi, per 7 mesi diedero vita nella località di Gore, nell'est del paese, ad un governo con lo scopo di ritagliare una porzione su quale mantenere un'entità statuale, conservare una parziale indipendenza e ottenere un riconoscimento diplomatico. Quindi cosa succede? Ad Addis Abeba si costituisce un governo ribelle con lo scopo che venga riconosciuto dalla diplomazia. Gore era la capitale dell'Ilubabor, una regione popolata dalla popolazione galla, di solito ostile agli Shoani, che è la regione di Addis Abeba. Quindi quelli che da Addis Abeba si muovono e vanno in questa regione sono Shoani e vanno in una regione di galla. L'ostilità etnica da quelle parti era notevole. I Galla sono noti nella storia d'Italia per essere stati quelli che dopo la battaglia di Adua ammirarono grosso modo il 12-15% dei prigionieri italiani. Tribù feroci con tutti, ma che in quel caso evidentemente scendono a patti con gli Shoani e accettano l'esistenza di questo governo ribelle, ed è molto importante. Prima vi ho detto che in Etiopia si usava la parola patria, ecco, questo è un contesto in cui noi potremmo tranquillamente dire per gli etiopi c'è un senso patriottico, si scannano ma nel momento opportuno riescono a fare corpo unitario. Nella città di Gore operava un consolato britannico che venne chiuso nei primi mesi di ottobre del 1936, dopo poco. A quel punto l'Inghilterra decretò in tal modo il proprio totale disimpegno dall'Etiopia. In Etiopia gli inglesi non c'era più nessuno, chiuso questa ambasciata, andato via l'ambasciatore, gli inglesi, se non qualche giornalista, non c'era quasi più nessuno. Dopo un mese dalla chiusura di questo consolato, anche gli etiopici abbandonarono Gore. Il Rassi Nirù diffuse alle popolazioni il seguente proclama, ma riuscì a reclutare non più di 1200 volontari. E prima di lasciare Gore lesse questo proclama: chiamati da molte migliaia di voci per la libertà dell'Etiopia a marciare su Addis Abeba, io dalle Kenti, il Bitwadet Wolde Zadek da Bunno e De Jaj Tayegululatie da Jimma, dobbiamo marciare aiutandoci a vicenda. Voi che verrete, ricordando la libertà della nostra madre patria, sarete accolti con gioia. Questa spedizione non è obbligatoria ma volontaria, da fratelli, e non sembra che forze nemiche possano arrestarci. Rassi Nirù verrà catturato dopo 1.5 mesi, quindi anche il tentativo di ricostituire altro falliva. Alla chiusura del governo di Gore, per forza di cose, deve subentrare una nuova generazione di combattenti, di quadri, di comandanti. E soprattutto perché la resistenza dei primi mesi è un lento e graduale stillicidio di morti senza senso in operazioni dall'esito incerto, a volte inutile. Cosa facevano gli etiopi? Assediavano i fortini italiani, aspettavano in tanti casi venivano bombardati dall'alto, o in tanti casi attaccavano in momenti non opportuni. Per prendere un fortino, insomma, ci possono essere delle strategie, che però non sono quelle della tecnica di guerra degli etiopi. Gli etiopi non facevano la guerra degli etiopi, facevano una guerra tradizionale in campo aperto, con grosse armate, e quindi andare ad assediare un fortino significava andare, attaccare il fortino e farsi ammazzare dalle mitragliatrici a decine e decine. Quindi ecco che a un certo punto, dopo centinaia di scontri, va detto, non negliamolo, quando la presa di un fortino effettivamente avveniva, poi la battaglia magari continuava, perché in molti casi si trattava di bande di banditi, e quindi alla fine il combattimento continuava, perché gli stessi etiopi si scontravano tra di loro per la divisione, la spartizione del bottino che potevano trovare all'interno del fortino. E quindi nei primi mesi ci sono forti reazioni, ma che non portano da nessuna parte. Nell'estate del 1937, Yad Benyoch, questo è il nome dei partigiani, in amarico, la lingua etiope, si chiamano Benyoch. Nell'estate del 1937, gli Benyoch della regione del Gojam proclamarono la guerra santa contro l'occupazione italiana, come reazione alle indiscriminate violenze. Cosa era successo nella regione del Gojam? Nella regione del Gojam operava un ufficiale italiano che aveva commesso degli episodi gravissimi contro la popolazione e soprattutto contro le chiese. Capitano Gioacchino Corvo, che già il nome si diffuse tra la regione come un uccello nero cattivo pericoloso, era solito entrare nei villaggi e mitragliare i preti monaci. Alcuni li annegò nella gotana con delle pietre al collo, e questo avveniva anche quando il signor Corvo entrava in villaggi sottomessi. Ci sono villaggi ribelli, ma ci sono villaggi sottomessi. Anche entrare in un villaggio sottomesso, la reazione di Corvo era sempre questa. E di fronte a violenze senza senso, che non riguardano numeri, non sono tanti numeri, era più grave uccidere una comunità di monaci che radere al suolo e uccidere un villaggio intero. Colpire una comunità di monaci voleva dire scatenare una rivolta, senza dubbio. E quindi dal Gojam, dove c'era un movimento di resistenza piuttosto forte, poi ritorniamo a parlare perché ci fu uno degli italiani che combatterono con gli Benyoch. In Gojam la rivolta viene organizzata, si fa a macchia d'olio. Io mi ricordo quando studiai la resistenza italiana, la resistenza comasca, c'era una radio che operava sul territorio comasco. Questa radio serviva per ricevere Radio Londra, Mierina non balla, doveva essere il messaggio rivolto ai partigiani che erano pronti dei lanci con armi, munizioni, eccetera. Gli etiopi non hanno radio, gli etiopi comunicano tra bande partigiane con, e figurarsi Radio Londra non poteva essere minimamente presa in considerazione. I partigiani tra di loro comunicano con corni, messaggi di fumo o con dei semplici volantini, ma appunto non dobbiamo pensare alla stampa clandestina della nostra resistenza, ecco, qui ci sono delle differenze sostanziali. I volantini vengono scritti tutti a mano. Dal Gojam riescono a fare avere alle popolazioni della regione limitrofa dei volantini e a far passare un messaggio di rivolta che evidentemente fino a quel momento non era stato diffuso. Vi leggo uno di questi volantini. Come state? Noi per la preghiera dei cristiani e per la volontà di Dio stiamo a combattere e vincere per la libertà della nostra patria e della nostra religione, avanzando e per adesso vincendo sempre e non subendo alcuna sconfitta. E beh, questa è propaganda, ma era efficace. Gli italiani sono venuti per far sparire la nostra stirpe e per prendere la nostra proprietà. Questo vuole il popolo italiano per la sua ricchezza e per espandersi. Il popolo italiano non vuol far vivere e far comandare gli Amara e i Galli in un impero che non è il suo. Ricordatevi che avete un'intelligenza. Da quando sono venuti gli italiani, a chi hanno dato il comando? Ras Ailu è il più vicino a loro. Che comando di territorio ha avuto lui? Voi sapete che il governo italiano non perdona neppure a quelli che stanno vicino a lui e che lo servono. Voi sapete che i capi, i notabili e molti del popolo sono stati uccisi. Voi sapete che Ras Ailu ha tradito il popolo d'Etiopia perché ha riunito nella capitale tutti i notabili e gli anziani di ogni paese e ha detto: voi non dovete avere resti, proprietà, bestiame, figli. Resti è l'unità di misura degli appezzamenti, ma è anche il termine che indica il tipo di pagamento di tributo che va fatto all'autorità centrale. Tutto è per me. Da ora in poi i figli e il bestiame saranno catalogati per me. Questo era sempre lui. Ha cominciato a scegliere anche delle donne perché divenissero mogli degli italiani. Figli del Gojam e di Wolet Israel, combattete per la religione cristiana. Voi avrete pazienza e più cose peggiori di queste vi capiteranno per la vostra anima, per la vostra proprietà, per i vostri figli, per il vostro bestiame, per la vostra religione. Ora, con la volontà di Dio, è giunto il raggio di sole nella nostra patria. Noi invieremo tra poco il grande annuncio a voi. Nel nome della nostra religione dovete resistere al nemico fino al tempo opportuno. Noi specialmente vi raccomandiamo di combattere anche con le armi indigene. Dovete far pressione sul cuore degli indigeni che stanno con gli italiani. Se avete abbastanza armi, mandate gente fedele e riceverete armi da noi. Noi vi preghiamo di fare passare copie di questa lettera a tutto il Gojam e al Beghemedera. Passate la parola ai capi e ai notabili. Beh, e richiama sempre la patria, e richiama sempre la religione e la preoccupazione dei fenomeni collaborazionisti. La rivolta del 1937, questa scaturita da volantini come questo, la rivolta della Guerra Santa, contribuì a porre le basi per il movimento partigiano successivo e decretò definitivamente l'impossibilità di cooperazione tra italiani ed etiopi. Rappresentò quindi una notevole discontinuità all'interno della storia dell'Etiopia di quell'epoca e con ripercussioni di lungo periodo. Gli italiani non compresero la reale portata della rivolta e lo possiamo capire dalle relazioni che venivano inventate a Roma, che sottostimavano la realtà della rivolta. Fate conto che in tutto il Gojam rimarranno 3 presidi operativi, verranno smantellati, scusate, 3 residenze, verranno smantellati tutti i presidi, tutti i sottopresidi, sono i tipi di fortini che venivano dislocati sul territorio. Nella regione della Mara, praticamente oltre le strade, tutto il territorio passa in mano ai ribelli. Passa in mano ai ribelli anche lungo le strade, di notte, dopo l'ora del tramonto. Però una guerra di massa di questo tipo può essere condotta fino a quando non arriva una reazione da parte di autorità militari più forti. Ed è questa, è un po' il tira e molla che coinvolge sempre un movimento di resistenza che si affida alla guerriglia. E quindi alla grande rivolta seguono delle repressioni e a queste repressioni la resistenza dovrà darsi un'ulteriore modifica. Le repressioni dell'autunno del 37, badate bene, vedranno l'utilizzo di gas di brite tutti i giorni, 2 anni dopo la guerra di Etiopia, tristemente nota per l'utilizzo di gas di brite, sostanza vescicante, utilizzata nel 35 e nel 36, verrà abbondantemente usata tutto l'autunno del 37. E badate bene che negli elenchi che possediamo negli archivi non esistono sintesi riguardanti quel periodo, e quindi anche chi ha svolto ricerche e pubblicazioni riporta l'utilizzo con numeri esatti e precisi di quante bombe furono sganciate dal 35 al 36, in parte al 37, ma questi dati mancano per l'autunno. Ma se guardiamo i singoli telegrammi che venivano trasmessi da Addis Abeba, dalle autorità militari e poi a Roma, ebbene ricostruiamo che le bombe ai Prit venivano utilizzate quotidianamente, anche le bombe incendiarie. E l'ibrite veniva anche irrorato, non solo buttato con bombe. Questo non ve l'ho detto, ma in Etiopia c'erano anche le bombe batteriologiche, non furono mai utilizzate. Ma il CEIO, ospedale militare di Roma, c'era un laboratorio, un reparto chimico, che produceva armi batteriologiche, c'erano colture di batteri, alcune di queste bombe furono inviate in Etiopia, ma non furono mai utilizzate. Badoglio chiese la possibilità di utilizzarle, ma Mussolini negò il permesso. Quindi, per stroncare questa rivolta, soliti esternamenti e armi chimiche. E necessariamente gli etiopi, per riuscire a reggere l'urto, ma neanche tanto a reggere l'urto, per vincere, si dovettero dare una struttura diversa. E quindi incominciarono a muoversi in gruppi meno numerosi, a tendere imboscate e organizzare sabotaggi. Gli effetti di questa nuova impostazione furono immediati. Ad esempio, il grande ciclo di operazioni di polizia coloniale, così prendevano il nome i rastrellamenti in colonia, organizzato per reprimere la grande rivolta, si concluse con un numero relativamente basso di perdite da parte etiopiche. I capi partigiani a quel punto non appartenevano più esclusivamente alla nobiltà, erano figure divenute importanti sul territorio e che avevano accresciuto il proprio prestigio grazie alla lotta. Condussero una resistenza continua e senza sosta nell'isolamento totale, ma nonostante ciò seppero organizzare i propri uomini. Isolamento totale perché l'Etiopia era del tutto isolata. Dove prendo io i proiettili se sono del tutto isolato? Da dove mi arrivano? Dagli occupanti? Certo. L'unico aiuto proveniente dall'estero fu nei primi mesi del 1939 la missione italo-anglo-etiopica guidata da Ilio Barontini. Su questo vi dirò qualcosa tra un po'. E a questo punto non abbiamo più telegrammi con 2000, una banda di 1500, 2000 si uniscono, assedio. No, iniziamo ad avere anche segnalazioni di diverso tipo. Risale al 1939 la prima informazione, che io ho riferito tra i documenti, potrebbe darsi che ce ne siano altre, in merito ad azioni di sabotaggio effettuate con esplosivo e bombe dalla guerriglia etiopica. Quindi, oltre a muoversi in piccoli gruppi, gli etiopi iniziano ad avere una strategia di combattimento più simile alla struttura guerrigliera, cioè dedicarsi anche al terrorismo e al sabotaggio. Queste informazioni le prendiamo da una lettera di Teruzzi, sottosegretario all'Africa italiana, soprannominato Toro da Monta, perché quando andava in Etiopia si faceva seguire da tutta la compagnia di, delle bande di Totò. Questa era la sua occupazione principale, ecco. E cosa scrive Teruzzi in questa lettera? Viene riferito che nel 1938 furono arrestati 7 indigeni intenti a far saltare ponti sulla Wash. Immaginatevi, un popolo che non aveva mai visto esplosivi, che per la maggior parte usava armi bianche, a un certo punto fa un notevole scatto in avanti. Furono sorpresi sul fatto mentre scavavano buchi ai piedi dei piloni di ferro e in possesso di cartucce di dinamite. Dopo un anno di carcere, il capo dell'ufficio politico avrebbe sollecitato ed ottenuto il decreto di amnistia. Viene pure riferito che un paio di mesi fa il tribunale militare di Addis Abeba condannò a morte un indigeno, il governo diede ordine che fosse scarcerato, eccetera eccetera. Fondamentalmente questa non è la mia idea, perché furono scarcerate queste persone, ma dato importante è che vengono segnalate azioni di tipo diverso, non più solo scontri a fuoco. La situazione mutò radicalmente con la dichiarazione di guerra dell'Italia in Inghilterra del giugno 1940. Nello scenario dell'Africa orientale, gli inglesi impiegarono inizialmente contro gli italiani 25-30.000 uomini tra britannici, indiani, sudanesi, kenioti e somali. Gli arbenioci a quel punto tornarono a ricevere aiuti dall'estero e aumentarono di numero, sia perché parte del territorio veniva gradualmente liberato, sia perché gli ascari che combattevano con gli italiani, vedendo la situazione compromettersi, lasciavano gli italiani, anche se questi avevano notevolmente aumentato il soldo per i sudditi coloniali. L'opposizione armata degli indigeni era presente ovunque e ben radicata tra la popolazione. Nonostante negli ultimi due anni le grandi operazioni di controguerriglia fossero state sostenute dal lavoro politico, tra capi notabili era ancora viva la sensazione delle violenze subite nel 1937. In anni di occupazione dal 1935 al 1939, non ai dati del 40-41, furono ritirate ai guerriglieri rispettivamente 371.000 fucili e moschetti, 2.000 pistole, 1.156 mitragliatori o fucili mitragliatori, 169 cannoni. Considerate che i cannoni vengono sequestrati solamente nel 35-36. I cannoni e anche le mitragliatrici, il grosso numero di sequestri sono nei primi due anni di occupazione. Questi sono i dati per farvi capire la potenza di fuoco che poteva avere la resistenza. Quindi 371.000 fucili e moschetti. Vi leggo una testimonianza raccolta a Gibuti in quegli anni, perché io insomma vi ho raccontato che brevemente, molto brevemente, la resistenza si evolve, si adegua alla situazione contingente. Se gli italiani hanno gli aerei, è ovvio che io devo dare una struttura tale per cui non mi faccio vedere. Se gli italiani conducono rastrellamenti con mezzi veloci, ovvio che io andrò a rifugiarmi in zone dove questi mezzi veloci non possono circolare. È ovvio che se gli italiani sono in tanti e li voglio attaccare, ricorrerò a sabotaggi, terrorismo o azioni di un certo tipo. Il fatto, dal nostro punto di vista, che riuscirono a dotarsi di questa struttura e organizzazione potrebbe anche farci dire che maturarono e raggiunsero degli obiettivi di buon livello, funzionali a liberare il loro paese grazie a delle tecniche militari efficienti. Questo è il nostro punto di vista. Noi siamo utilitaristi, guardiamo il fine è liberare il paese e si ricorre anche a una struttura politica e militare di un certo tipo. Per gli etiopi questo fu un cambiamento che stravolse la loro cultura. Gli etiopi hanno sempre fatto la guerra con scontri campali, ma veramente la struttura dell'esercito ricorda quella degli eserciti antichi, ma neanche medievali. La tenda al centro dell'accampamento ben visibile. Oggi chi farebbe un accampamento militare mettendosi ben visibile e facendosi vedere, no? Quindi gli etiopi avevano grandi accampamenti, impiegavano mezza giornata per smontare le tende e partire, camminavano mezza giornata e dovevano reinstallarle, eccetera eccetera. L'etiope insomma deve combattere vis-à-vis, diremmo singolare tenzone, il nemico lo deve vedere negli occhi. E quindi alla fine cosa pensarono della loro esperienza? Cito questo ambasciatore. Abbiamo imparato ad essere codardi. Un tempo combattevamo viso a viso contro i nostri nemici. Adesso conosciamo il valore della guerriglia, che noi chiamiamo guerra dei codardi. Ma questa sarà la via che ci permetterà di sconfiggere gli italiani. Quindi, pensate quando studiamo noi la storia militare della resistenza italiana, come ci poniamo di fronte alla guerriglia, a certe tecniche, oppure a volte quando la si può comparare con altri fenomeni di guerriglia, un giudizio di questo tipo ci colpisce. Guerriglia è una guerra eroica, di sacrificio, per un popolo come quello di Giuseppe, tutt'altro. Il fatto che non ho finito, il fatto che siano intervenuti questi cambiamenti nella struttura militare della resistenza etiopica fu dovuto a ovviamente la necessità di non farsi sterminare di fronte ai fortini, la necessità di non farsi bombardare dagli aerei. E quindi la resistenza si diede una sua fisionomia, perché altrimenti non sarebbe durata. Ma un piccolo contributo a questa trasformazione gli italiani lo diedero. Un piccolo, d'accordo? Se no siamo andati noi, abbiamo fatto la guerra, abbiamo fatto l'impero e li abbiamo pure liberati. Sarebbe veramente difficile da sostenere. Ecco. Quindi gli italiani diedero un contributo, alcuni combatterono con gli etiopi, va ricordato, è giusto ricordarlo, ma questo che non venga frainteso come dare meriti agli italiani e bianchi per vittorie che sono state portate a compimento da altri. E mi riferisco alla vicenda di Ilio Barontini. Ilio Barontini, due dati sulla sua biografia: massimalista, animatore degli scioperi ferroviari nel Biennio Rosso a Livorno, uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia. Ilio Barontini combatté alla guerra di Spagna, combatté in Cina, ma su questo non sappiamo nulla, combatté in Etiopia, poi organizzò i GAP in Piemonte durante la lotta di liberazione, poi divenne comandante di divisione garibaldina in Emilia Romagna, dopo la guerra fu deputato alla Costituente. E ahimè, nonostante questa vita avventurosa, morì in un incidente stradale nel 1955. Ilio Barontini molto probabilmente rivestì un ruolo importante nelle strutture militari del Partito Comunista d'Italia, non solo in tempo di guerra, ma anche in altri ambiti. Diciamo che era colui il quale controllava i comunisti italiani e in Francia durante gli anni 30. I Barontini chiacchierai una volta con il Mario Ferro, ce lo ricordiamo tutti, scrisse un'autobiografia in cui cita Barontini, e mi ricordo perché quando gli fece un paio di domande era molto anziano Mario, ma si ricordava di quest'uomo che per lui era stato un grande punto di riferimento. Mario Ferro era giovanissimo, e per lui uno come Barontini era un quadro militare, un quadro politico, quindi era una persona da cui imparare. E appunto mi ricordo questa chiacchiera con Mario in cui mi raccontò qualcosa della personalità di Barontini. E quindi in breve vi dico quello che successe. Nel 1938 il Partito Comunista d'Italia decise di costituire, nel quadro della nuova strategia dei fronti popolari, deciso dal settimo congresso dell'Internazionale Comunista, un nucleo di militari, militanti, con il progetto di inviarli in Abissinia, organizzare militarmente la resistenza. Alla fine la missione si ridusse a 4 persone: Anton Uckmar, Bruno Ronna, Ilio Barondini, Paolo De Bargini. 4 persone, ma ebbe lo stesso un notevole contenuto politico. Quello che è rimasto di questa avventura è molto poco, perché i protagonisti non lasciarono memoria, un grande peccato. Solo Anton Uckmar rilasciò a posteriori una testimonianza a Cesare Colombo per conto dell'Istituto Gramsci, pubblicato su Rinascita nel 66. Di Barondini conserviamo solamente una nota autobiografica richiesta dal Partito Comunista Italiano nel settembre del 45, in cui dice solamente, ti ho detto cosa ha fatto. L'unica nota biografica di Barondini all'Istituto Gramsci è un fogliettino. Ritornato in Francia nel 1938, per un giro di propaganda, tornato dalla Spagna evidentemente, fu incaricato dal nostro partito di studiare una possibile operazione militare diversiva in Abissinia. Mi recai in Abissinia nel 1939 e vi restai fino al 1940. Organizzai e diressi colà il vasto movimento di partigiani e all'azione militare aggiunsi un vasto lavoro politico di carattere nazionale, pubblicando e diffondendo un giornaletto patriottico che si chiamava La Voce degli Abissini. Non fu messo alla testa del movimento partigiano. Barondini diede consigli, insegnò come lavorare con gli esplosivi, fece propaganda, sicuramente era il braccio destro di uno dei partigiani del Gojam che si chiamava De Giac Mangasha, ma non fu messo alla testa di un vasto movimento partigiano. Ma questo non per sminuire il ruolo di Barondini, ma ci mancherebbe altro, per soppesare nel modo giusto le cose. Oltre a questi compiti tesi a stabilizzare l'opposizione etiopica, gli italiani condussero azioni di propaganda destinate sia alla popolazione che ai militari. Venne dato alle stampe, come ci dice Barondini, La Voce degli Etiopi, che aveva una tiratura settimanale, e veniva stampato in qualche centinaio di copie. Nella foresta i partigiani avevano un ciclostino. La diffusione della propaganda antifascista tra italiani, collaborazionisti e ascari veniva svolta dalle donne etiopi che, grazie alla loro apparente insospettabilità, si introducevano all'interno dei campi italiani per diffondere volantini e reperire informazioni. Dal punto di vista politico, Barondini e compagni aiutarono i ribelli a costituire un governo ribelle, e questa crebbe la loro fama a tal punto che i fascisti li individuarono e misero a disposizione delle fotografie per catturarli, e la radio di Addis Abeba annunciò una taglia sulla loro pelle. Barondini fu raggiunto da Lorenzo Taezaz in agosto e svolse la propria azione presso il De Giac Mangasha, come vi ho detto. Uckmar operò nella zona di Gondar, attorno alla Gotana, nell'Alto Nilo e nel Gojam. Nel marzo del 1940 iniziò il lungo cammino per tornare in Francia, passando per il Sudan, l'Egitto, lungo la linea direttrice già utilizzata all'andata. La missione era finita, ma si ammalarono anche di malaria e quindi fu consigliato di tornare in Europa. La colonna, mentre tornava, composta oltre che dagli italiani, da alcuni dignitari locali, 2 preti, una scorta di circa 20 uomini, venne intercettata da una banda di 600 uomini e costretta a dividersi. Quindi a quel punto gli italiani che combattevano in Etiopia si dovettero dividere e si incontrarono a mesi di distanza. Figuratevi che Barondini arriva in Francia, e questo c'è scritto sul suo libro, no? Me lo raccontò anche Mario, dopo aver compiuto questa eroica azione, fu messo in quarantena dal partito. Evidentemente era precauzione, insomma, combatte dall'altra parte del mondo, ma soprattutto perché aveva combattuto per una causa che fondamentalmente era monarchica. Quando Barotini arriva in Etiopia, si fa chiamare in un altro modo, lui è Paolo, si utilizza un nome biblico, si fa crescere la barba, si presenta con delle credenziali dell'imperatore, non con le credenziali del Partito Comunista. Le credenziali del Partito Comunista gli servono per costruire i contatti con l'imperatore, con gli inglesi e per passare in Egitto, ma non certo per inserirsi in quel contesto. Ci impiegai 5 anni, ma alla fine una copia di questa Voce degli Etiopi l'ho trovata. La Voce degli Etiopi, e di fianco alla testata c'è scritto, attenzione perché ci sono degli errori di traduzione evidentemente, io ho trovato solo la traduzione, non esiste più l'originale. Come disse San Paolo, chi non lavora non mangia. Coloro che in Etiopia non lavorano non possono vivere né fermarsi. Straordinario, straordinario, perché certo lui deve presentarsi dagli etiopi come una persona rispettosa della tradizione, quindi rispettosa del cristianesimo. Ma chi non lavora non mangia è uno degli articoli della Costituzione sovietica del 17. E quindi straordinario Barotini. Comunque continua sulla sua via e mantenendo il proprio contenuto e la propria coerenza, cosciente che le decisioni di fronte popolare uscite dall'internazionale comunista deve necessariamente fare interloquire i comunisti con altri componenti. Ricordiamoci che Giustizia e Libertà non prenderà parte a questa missione perché considererà non sufficientemente antifascista fare un fronte popolare con i popolari, col Partito Popolare, e allargandolo anche a potenze straniere di tipo monarchico. Ma poi sappiamo appunto che Giustizia e Libertà, che nella storia del dopoguerra su questa cosa di governare sottostando un potere monarchico non lo accettavano. Quindi Barotini stampa questo giornaletto, era un giornaletto in una pagina sola, immaginate un ciclo stile. Il giornale dei capi armati che lottano per l'indipendenza dell'Etiopia, centro Etiopia, settembre 1931. Gli etiopi hanno un calendario diverso dal nostro, sono 7 anni indietro. Il loro capodanno è l'11 settembre, e quindi certo io lo devo scrivere in amalico, in italiano, ma mettere le date degli etiopi. E due articoletti. Guerra. In Etiopia è scoppiata la guerra, fascisti, tedeschi e falangisti hanno incominciato la guerra, inglesi, francesi e democratici combattono in favore dei falangisti, e qui è un errore evidentemente di traduzione. L'Italia ha mobilitato e fra poco anche lei entrerà in guerra. Il canale di Suez si chiuderà. Gli italiani che si trovano in Etiopia rimarranno in trappola come topi. È giunto il momento del ritorno del nostro re dei re. Etiopici che servite gli italiani, è giunto il momento che dobbiamo cacciare il nostro nemico. Coloro che rimarranno con i nostri nemici e che non seguiranno la nostra sorte si dichiareranno veri nemici dell'Etiopia e saranno calpestati da noi. Perciò non lasciate trascorrere il tempo. Uscite, o popolazione dell'Etiopia, è giunto il giorno, svegliatevi. Il Dio è pietoso, pronunciando l'alleluia, ringraziarne il nostro creatore. Il comitato che lotta per l'indipendenza dell'Etiopia. Altro articolo. L'Etiopia è solo per gli etiopi. Attenzione, o popolo d'Etiopia, attenzione, o popolo d'Etiopia, gli italiani ti danno carta per lire. I fascisti hanno esaurito la tesoreria del governo italiano ed hanno creato un debito di 200.000 milioni. Ora l'Italia non ha più oro né argento. Le carte che vi danno non hanno più valore, sono come i marchi del 1918. Ma popolo d'Etiopia, attenzione, attenzione, non accettate le lire di carta, gli italiani vi ingannano. Vi ho detto che gli etiopi comunicavano tra di loro e facevano la propaganda lanciando dei foglietti scritti a mano. Questo giornale veniva stampato in qualche centinaio di copie, ma appunto molto probabilmente anche di meno. Gli italiani invece svolgevano una ferrea propaganda, riversando su tutto il territorio milioni e milioni e milioni di volantini, letteralmente milioni, ma sempre dal tono minaccioso, e che non sortivano effetto, mentre la propaganda degli etiopi coglieva il segno, perché sfruttava questo elemento di religione, aspetto veramente più profondo e più importante per la cultura etiopica. Questo elemento gli italiani non lo prendono mai in considerazione. Spero di avervi dato una panoramica esaustiva. Non è facile parlare di così tante cose in poco tempo. Non possiamo stare qui altre tre ore a farci delle domande se qualche passaggio non è chiaro, è sembrato complicato o se vi ha stimolato a fare dei ragionamenti e delle domande, ci mancherebbe altro. Io ho costruito un discorso in maniera tale che si uscisse da qui e si dicesse: ok, ho capito un po' cos'è il fascismo nel contesto coloniale, ho capito che qualcuno si oppose, che agì in un certo modo, che tutto sommato aver combattuto contro il fascismo da una parte o dall'altra parte del mondo, insomma, non è stata proprio una cosa diametralmente opposta, completamente diversa. E quindi conoscere qualcosa sulla resistenza etiope significa capire che non abbiamo evidentemente mai dato il giusto valore al loro sacrificio, al loro impegno di antifascisti, non solo contro gli italiani. Perché le guerre coloniali? Per una politica di prestigio. Non ci sono tante altre motivazioni. Il fascismo voleva una politica di prestigio e pensò di averla fatta. Il fascismo aveva bisogno di una guerra fascista. La guerra d'Etiopia è la vera guerra fascista. Ecco perché riflettere su queste cose ha tanto senso. Perché la guerra di Spagna fu condotta insieme alla Germania, la seconda guerra mondiale fu condotta con altri alleati. La guerra di Etiopia è l'unica guerra fatta dal fascismo, per il fascismo. E quindi ecco anche forse perché c'è dietro tanto negazionismo, revisionismo. No, revisionismo no, perché sono io revisionista, evidentemente, rispetto a certa storia, un vero e proprio negazionismo. Non c'erano decisamente motivi. Politica di prestigio, perché al regime serviva avere qualcosa che lo dimostrasse, lo presentasse maturo, anche con una generazione, ripeto, sono i fratelli minori di quelli che fecero la grande guerra, se non i figli in alcuni casi. E quindi serviva qualcosa. Perché dal punto di vista economico, allora se parliamo della Libia non si sapeva ancora di gas, petrolio, d'accordo? Sì, c'è qualcuno che dice, no, c'erano le intuizioni, di fatto, finché sono intuizioni, la storia si fa con i fatti, non con i sé. La Libia era uno scatolone di sabbia. L'Etiopia, e quindi si teneva perché era bisogno di avere un territorio che in un qualche modo si richiamasse alla storia antica, che un posto al sole. Tra l'altro, vabbè, niente. Interessi economici con l'Etiopia non ce ne sono. Tra l'altro, abbiamo solo studio serio su questo. E parlava di una completa autonomia economico barra finanziaria della colonia, dell'impero, che si sarebbe raggiunta nel 1964. Quindi la guerra del 35, no, ma realisticamente, cioè, se ragioniamo nei tempi di un investimento, una redditività, eccetera, eccetera, siamo in un paese senza vie di comunicazione, senza niente, ma noi importavamo il cemento e il filo di ferro per costruire le case. Quindi in Etiopia si porta tutto. Quindi c'è questo studio che parla di una completa autonomia finanziaria ed economica per raggiunta nel 64. Questo ovviamente senza avere movimenti di opposizione, di guerriglia e di ribellione, questo ovviamente senza aver avuto la seconda guerra mondiale, eccetera, eccetera. Di fatto oggi noi stiamo ancora pagando questa guerra, perché ogni litro di benzina, qualche centesimo, serve ancora per ripagare la guerra d'Etiopia. E quindi in un qualche modo tutti noi stiamo pagando la guerra fascista di Mussolini. Quindi ricordo questi movimenti pacifisti, anarchici, che propugnavano e professavano l'obiezione fiscale di coscienza, cioè pago i tributi ma non quelli relativi alle spese militari, quindi deduco la percentuale che lo Stato spende in armi. Qui di fatto noi per i nostri soldi stiamo ancora pagando la guerra fascista senza essere in grado di porre le condizioni, le modalità per cui possiamo uscirne, si può dire qualcosa, eccetera. Mussolini non aveva una idea politica della politica diplomatica, era tutto molto improvvisato. E quindi se mai vi dovesse capitare di vedere studi britannici che parlano di questa grandiosa visione geopolitica del Duce relativamente alla conquista del Corno d'Africa per unire la Libia e spodestare i britannici dall'Africa, sono ipotesi inconcludenti. La storiografia britannica parla di un impero fascista proiettato verso un'aggressione del territorio oltremare britannici. Allora, noi in archivio abbiamo tanti studi militari, nel senso che è quello che si faceva. E quindi nei nostri archivi abbiamo studi di carattere offensivo e difensivo sul Kenya, la Somalia, scusate non la Somalia, il Kenya, Sudan, l'Egitto, e in uno di questi Graziani fa preventivare un potenziale attacco al Sudan. Allora, il mio amico britannico che ci ha scritto di questo sostiene che Graziani era pericolosissimo, insomma, aveva il progetto di... E poi quando insomma, si guarda bene le carte, quanti chilometri sono Sudan, quanti automezzi avevamo, quanto combustibile disponibile, sono questi i dati reali su cui dobbiamo riflettere. Quindi il disegno geopolitico di Mussolini su quell'area è assolutamente un'invenzione della storiografia britannica, che evidentemente deve porre la Gran Bretagna come una delle vittime. Quindi, ecco, credo di averti risposto. Politica di prestigio. Può stupire questa, può stupire come? Dominio nella liquidi così. Sì, la liquido così. Ci ho anche riflettuto tanto con i miei maestri. Non è mai uscito un altro tipo di opzione, di ipotesi. Prestigio personale, forse. Prestigio personale, ma io ho anche sentito dire, quando io ero giovane, la perfida Albione ci rispettava. E quindi non era solo lui. Lui, così come probabilmente oggi non sono loro due a rinfocolare un certo senso nazionalista, ma prende piede un substrato che c'è. Affile. Affile è questo monumento costruito nel Lazio che diede i natali a Graziani. È un documento in palese apologia di fascismo. Pronto. Per quello che c'è scritto, cosa c'è scritto? Onore. No. E ci sono due. Anche l'architettura. Sono due fasci vittori. Io, sai, su questo la liquido anche con una battuta. Sembra un perfetto Vespasiano e quindi hanno sbagliato una lettera perché dobbiamo scriverci odore. Perché è assolutamente un Vespasiano, e se guardate i Vespasiani che costruivano sotto il fascismo, vere opere d'arte simili a queste. Perché faccio fatica a dare una risposta di fronte a un gesto di questo tipo fatto da un sindaco. Francamente è giusto che l'arte si sia impegnata, che si siano impegnate le comunità etiope ed eritree del Lazio, che avevano condotto una denuncia, ma dal mio punto di vista c'è poco da dire. Un sindaco fascista che costruisce un monumento fascista. E per questo è stato condannato. Graziani, ripeto, Graziani è un coloniale, ha fatto la carriera in colonia, sa come prendere le cose, nel bene o nel male, d'accordo? Nessuno sta dicendo di avere della stima verso certi personaggi, però sappiamo, io faccio una colonia, a cosa mi serve la colonia? Da sfruttare. Sfrutto le risorse, sfrutto la popolazione. E Graziani era un coloniale, questo era il suo progetto anche per gli etiopi. A Graziani gli viene detto no, non si interloquisce con la popolazione. E allora nel momento in cui Graziani rispetta gli ordini provenienti dal Duce e si scatena e si crea una situazione che è una via di non ritorno, sì Graziani è ferato, sì Graziani è feroce, sì Graziani è colui che ha ordinato le stragi, ma non avrebbe fatto altrimenti, non avrebbe potuto fare altrimenti. E badate bene, nella diarchia dei poteri di Mussolini, chi va a pagare le cose? Graziani. Graziani viene richiamato nel 37. Verranno richiamati altri governatori, lui dice lei, governatori di regione verranno richiamati, ci sarà una sorta di ricambio perché è fallita la repressione, ma la repressione è voluta da Mussolini che altri non volevano. Detto questo, Graziani è un militare, riceve questi ordini e li porta avanti fino in fondo. Dovremmo leggere i documenti per capire la personalità, il linguaggio, ma c'è questo fatto che secondo me la dice lunga sul personaggio. Ecco, il 19 febbraio del 37 subì questo attentato. Due eritrei butteranno contro il palco dove si stava tenendo una cerimonia alcune bombe a mano. Graziani verrà ferito da qualche dozzina di schede con l'esplosione di queste bombe. Niente, immaginatevi una cerimonia, il palco degli oratori, tutti i notabili della città, più importanti, più poveracci. E durante questa celebrazione succede questo. Non morirà nessuno, non morirà nessuno, ma tutti i convenuti verranno mitragliati. Graziani finirà in ospedale e per tre giorni, come vi ho detto, qualsiasi nero trovato in circolazione verrà ucciso. A condurre queste operazioni sarà Guido Cortese, che poi lo rivedremo nella Repubblica Sociale Italiana Salò. E Graziani è in ospedale, evidentemente sa cosa sta succedendo, ma la sua unica preoccupazione è quella di dimostrare a Mussolini di essere ancora maschio, e si farà fare una dozzina di foto con il pene in erezione che spedirà a Mussolini per dimostrare di essere ancora maschio. Allora, di fronte a una macelleria e a fiumi di sangue, abbiamo le testimonianze diopi di donne, uomini, bambini che al vedere l'avanzata delle truppe italiane nei quartieri a nord della città si buttavano dai ponti pur di non incorrere nelle violenze, capanne bruciate con persone rinchiuse dentro vive. Quindi stiamo parlando di episodi che all'epoca destarono l'indignazione mondiale, perché poi le notizie circolarono nonostante il ferro controllo dell'informazione da parte del regime. Graziani era questo. Graziani, la sua unica preoccupazione era quella di essere considerato ancora fedele a Mussolini. E poi lo vedremo anche nella sua storia, il rapporto con il Duce sarà sempre ad alti e bassi. Ma sarà lui sempre a recuperarlo fino alla fine, cioè è uno fedele al fascismo, è fedele a Mussolini fino alla fine, fino agli ultimi giorni consumatisi dalle nostre parti. Però una volta richiamato Graziani le violenze non cessarono, purtroppo siamo stati abituati a conoscere i fatti che vanno dal 36 al 37, quello che è successo dopo lo conosciamo poco, o meglio non è stato indagato sufficientemente, o meglio ne furono fatte così tante che dopo il 37 si perse il conto. Dopo il richiamo di Graziani fu inviato nell'impero Ugo Cavallero e Amedeo di Savoia. Amedeo di Savoia come vice re, e quindi ricopriva il ruolo di Graziani, Ugo Cavallero come comandante militare. E sotto la gestione di Cavallero, sempre con innumerevoli attriti con il vice re e con le autorità a Roma, nella fase di Cavallero verranno compiute efferatezze tanto quanto nel periodo Graziani, senza dargli così visibilità, senza propagandarlo, ma proprio una pacificazione di tipo brutale sul territorio. Faccio un esempio: in tre mesi nel 1938 solo nella regione della Mara furono bruciate una cosa come 80.000 capanne. Capanne vuol dire tanti casi di una famiglia intera. Nel 1939, in aprile, fu fatta la strage nella grotta di Zaretti che ho scoperto io, la strage peggiore, più efferata, 800 persone mitragliate dopo che si erano rifugiate in una grotta e furono gasate, dopo la resa furono mitragliate. Questo succede nel 39, c'è cioè Avenida di Savoia, c'è Cavallero, Graziani non c'entra più con l'impero, è che non se ne parla. Anche negli ali di Ciano ci sono un paio di appunti in cui Ciano dice il Duce è annoiato dalla rivolta del Gorgiam, il Duce è annoiato dall'impero. Il Gorgiam era una parola che era una regione che si conosceva anche in Italia, tanto se cioè, arrivavano le voci. E quindi Graziani, efferato criminale di guerra, non lo so. come i suoi successori, ecco, Amedeo di Savoia non lo metto sullo stesso piano. Amedeo di Savoia fa anche un lavoro politico. Chiudono i mercati, e questo è un campanello d'allarme che la popolazione è impaurita, e se chiudono i mercati e ferma l'economia locale, il passo successivo è una rivolta. Graziani era contento se i mercati chiudevano, se nessuno si muoveva. A Amedeo di Savoia ci sono tutta una serie di elementi che li legge come dei campanelli di allarme, di cose che non funzionavano. E che ne so, forse avete fatto caso quando ho letto un pezzo della Voce degli Abissini che dicono vi danno monete di carta che non valgono niente. Usano solo i talleri di Maria Teresa d'Austria, d'argento, dare quelli di carta non serve a niente. Imporre una politica così vuol dire destrutturare una società che si basa su dei criteri di scambio economico diversi dai nostri, ma direi veramente premedievali, la carta non vale niente, la moneta sì, andatevelo a spiegare. Allora ci sono tutta una serie di politiche di rivalutazione della moneta locale per invogliare e incentivare l'utilizzo della lira, e di fronte alla circolazione clandestina dei talleri ci sono le fucilazioni. Oppure racconto questa storia, poi vabbè, andiamo altre domande. Questa storia, immaginate una truppa, una colonna in operazione, arriva al tramonto, si ferma in un villaggio, il villaggio sono tutte capanne, e quindi gli ufficiali vanno a dormire nella chiesa. La struttura un po' più resistente, nei sedili delle chiese in Etiopia ci sono sempre delle piante, e quello è un bosco sacro, richiama l'Eden biblico, non si possono tagliare assolutamente. Non immaginate gli italiani che entrano nel sedime della chiesa, zac zac tagliano due piante per farsi il falò. Poi mi immagino veramente i lombardi e piemontesi degli anni 30, qualche bestemmia, qualche parola di troppo, si entra in una chiesa senza togliersi gli scarponi. Ovviamente la chiesa la si visita, e quindi si va anche dove c'è il tabernacolo, tutta una serie di cose che non possono essere viste dai fedeli, ma sì, si sputa per terra, magari ci si fuma una sigaretta, tutte cose in estrema offesa, E l'ora di cena, quindi si prende il fucile e si spara la prima bestia che passa. Ma gli etiopi non mangiano uccelli. Cioè, noi che consideriamo gli africani cannibali, si sa, perché noi mangiamo qualsiasi cosa che si muove tranne le volpi. Gli etiopi mangiano solo un numero limitato di animali, cioè quelli indicati nei testi sacri. Cioè. Quindi entrare in una chiesa con gli scarponi, mangiasi una sigaretta, ci si affaccia, si spara un'aquila, si taglia la legna per cucinarsi l'aquila, si viola il tabernacolo, magari si frega anche la croce o qualche manoscritto. Il giorno dopo si va via, ma senza uno stupro, senza un fucilato, senza nessun tipo di gesto di violenza. Una presenza così in un villaggio, in una comunità, scateva il giorno dopo una rivolta di inaudite dimensioni, perché mi brucia la capanna, non è un problema, mi bruciano raccolto, non è un problema, ma violano un luogo sacro che è il collante. E ancora oggi, se andate in Etiopia, ve lo dicono, qui la salvezza è la religione come collante, come cultura, se no qui, altro che le guerre che ci sono state, ce ne sarebbero state molte di più. E questo era per dire che volontariamente progettato dall'alto, quindi un genocidio come quello fatto da Graziani nel 1937, ha una condizione, conduzione degli eventi di tipo coloniale come quella fatta da Cavallero, o qualcosa anche di inconscio come una truppa, una colonna in operazioni. Abbiamo diversi livelli per dire che la presenza italiana poteva scatenare forte opposizione, di volte guerriglia, sia perché c'era una violenza estrema, sia perché c'era uno scontro evidente palese. Grazie. Allora, bisogna raccogliere due o tre domande per la risposta. Il primo è Marco, se qualcuno vuole prenotarsi alzi la mano, poi passiamo di corso. Marco Giomonti, segretario dell'Ampi Mongusto. Innanzitutto grazie a tutti per essere venuti qui oggi, bellissima giornata, in tutti i sensi, sia a livello meteorologico che della qualità dell'intervento di Matteo Dominio. Vorrei chiedere questo, si sta smontando un po' il famoso detto italiani brava gente. Stai dicendo prima nell'intervento il genocidio e i numeri impressionanti degli stermini dentro in questi campi nel deserto libico. Le domande sarebbero due. La prima è questa idea di nuovo mondo che veniva portata avanti dal fascismo, credo che far vedere queste colonie era un po' come avere una nuova Italia da costruire. E come veniva vista questo degli italiani? Nel senso, gli italiani erano coscienti di quello che si andava a fare, ovvero andare a fare una guerra di conquista, oppure la propaganda fascista copriva tutto con l'idea del nuovo mondo. E poi ripeto questo di smontare un po' il fatto degli italiani, però. Due curiosità soltanto. La prima, se potete dire Corrado Lamberti, sezione. No, l'altro ci vedranno. No, la prima, se potete dire, a livello un po' di curiosità, è dei rapporti fascisti con la minoranza religiosa musulmana contro i copti. E la seconda cosa, se potevi dire due parole sul generale Manetti. Per dire che ce li ritroviamo poi. Siccome ho scritto gli altri che non si qualificano, non mi sono qualificato nemmeno io, sono Guglielmo Ferruzzi, presidente provinciale della Che domanda da fare? Nessuno. Ah. Grazie tantissimo per l'interessante relazione che veramente mi ha colpito tante coppe in parte, mi ha profondissimo ignorato su queste cose. La domanda è questa, noi stiamo parlando di paesi che sono tuttora attraversati da guerre profonde, da guerre tribali, terribili, da guerre molto forti. È possibile individuare o definire un collegamento tra quella che è stata l'esperienza coloniale italiana e il senso di responsabilità su quello che ancora oggi succede? Grazie. E la Gisella in Trotex, se sono comunico. Scusate. C'è un'altra domanda, puoi farci rispondere? Vuoi fare la domanda? No, mi consegno la domanda. Ah no, a me è una curiosità, semplicemente non tengo un libro. Io sono Clerici Flavio, non sono iscritto alla sezione A perché avevo ricevuto l'opportunità di poterlo fare anni fa, poi non ho rinnovato la tessera, infatti mi ho ripromosso di farlo adesso. Noi siamo. No, la domanda è più o meno questa, cioè quando lei ha parlato di comunque riconoscimento da parte di una rappresentanza internazionale del popolo etiope, come si è che cosa si è mosso, in che cosa si è mosso, che cosa è successo, se è successo qualcosa riguardo all'occupazione italiana, l'occupazione italiana dell'Etiopia, cioè in che modo, che cosa è successo a livello internazionale, visto che comunque è stato riconosciuto popolo di un certo tipo, tutta una serie di caratteristiche, che cosa è successo, in che modo le altre nazioni si sono poste la domanda e che risposte si sono date. Altri? Parto da quest'ultima. Quando l'Italia inizia i movimenti delle truppe dall'Eritrea e dalla Somalia, ottobre 35, cioè quando inizia a invadere l'Etiopia, la guerra scoppia senza dichiarazione di guerra, la Società delle Nazioni decreterà delle sanzioni. Però queste sanzioni, come di solito avviene, verranno promulgate nei confronti di tutti i combattenti. Altrimenti questa è la dinamica della diplomazia. Se io vendo le armi a uno o all'altro, vuol dire che in qualche modo ho già dato anche un'interpretazione sulle ragioni o meno della guerra. Quindi sia l'Italia che l'Etiopia sono soggetti a questo embargo. La guerra inizia in ottobre, però ci sono già dei dissapori già dall'estate precedente per degli scontri a fuoco avvenuti al sud dell'Etiopia nei pressi dei pozzi d'acqua di Walwal. Etiopi sparano contro punti di presidio italiani. L'Italia si lamenta alla Società delle Nazioni e questo, diciamo, viene usato da parte del regime come casus belli. L'Italia dice: a Walwal si è consumata un'aggressione nei nostri confronti, eccetera eccetera. L'Etiopia, a causa delle sanzioni e di questo embargo, non avrà più accesso ad alcun tipo di rapporto economico con potenze straniere, e mi riferisco alla vendita e all'acquisto di armamenti. Anzi, tra l'altro, l'Etiopia viene bloccata la consegna di armi già pagate e che dovevano appunto essere consegnate. Ebbene, un paese come l'Etiopia, che ha armate con uomini senza scarpe, capite che non poter più comprare armi significava non permetterle di potersi difendere. L'Italia subisce questo embargo, però è un paese dalla struttura industriale diversa. È un paese che ha un esercito strutturato, appunto negli stati moderni si parla di monopolio organizzato della violenza da parte dello Stato, e in questo poi lo Stato italiano, scusate, il Regno d'Italia era perfettamente rientrato in questa descrizione. Quindi entrambi subiscono l'embargo, ma chi ne paga le conseguenze? L'Etiopia, non l'Italia. Panama non è nella società delle nazioni, Stati Uniti non è nella società delle nazioni, quindi l'Italia continua ad avere dei rapporti economici di scambio con paesi che non sono nella società delle nazioni. L'Etiopia questo non lo riesce a fare evidentemente. Quindi riconoscimenti internazionali, la diplomazia, il 5 ottobre del 35 decreta le sanzioni economiche, ma poi nel luglio verrà riconosciuta l'occupazione etiopia. Il 5 maggio gli italiani entrano ad Addis Abeba, l'imperatore d'Etiopia lascerà il paese e tramite Gerusalemme, via Gerusalemme andrà in Gran Bretagna, dove rimarrà fino al 41. Una volta lasciato il suo paese, la Società delle Nazioni riconoscerà l'impero italiano d'Etiopia. Scusate, Società delle Nazioni sono le Nazioni Unite uscite dopo la prima guerra mondiale, sede a Ginevra, non erano rappresentati tutti i paesi di tutto il mondo, e quindi vuol dire che se vi era dentro in questa organizzazione l'Etiopia, perché era un paese che aveva rapporti, un paese slanciato verso una certa modernizzazione. Gli italiani però, ci sono un paio di episodi che accadono a Ginevra piuttosto emblematici. L'Italia disturba in continuazione la politica della Società delle Nazioni. Vi faccio un esempio: quando bisognerà votare le sanzioni, il regime manderà proprio una claque di provocatori che durante la seduta della SDN disturberanno, faranno tifo e in un qualche modo incideranno sul voto di alcuni membri della Società delle Nazioni. Ma pensate voi, dall'Etiopia vengono mandate a Ginevra delle foto riguardanti l'utilizzo di gas. C'è questo plico di foto, se non che tutte le comunicazioni in Etiopia erano controllate dalla polizia fascista, quindi la polizia fascista intercetta questo plico di foto, le pubblica, ma produce un dossier utilizzando le foto dei feriti in Ibrit, segnandoli come i feriti dalle pallottole Dum Dum etiopi. E quindi quando bisogna discutere dell'utilizzo dei gas, questo non avviene perché le prove vengono manipolate. Immaginate una discussione dove ci sono grida, urla, dove l'ambasciatore etiope non riesce neanche a parlare, talmente subissato dalle grida dei fascisti che occupano tutti gli spalti, proprio una claque ben organizzata. Quindi la risposta è questa: riconoscimenti internazionali, ci fu la promulgazione di questo embargo, ma poi finita la guerra la Società delle Nazioni riconobbe l'occupazione italiana dell'Etiopia. Quanto le esperienze coloniali hanno inciso sul periodo successivo, sulle guerre successive? È un po' complicato. Un po' complicato perché siamo sempre di fronte a un caso. Sarà così, ma il Corno d'Africa rappresenta un caso. Dopo il 41 l'Italia rimarrà formalmente nelle proprie ex colonie perché gestirà la Somalia per 5 anni, fino al 1950. C'è questo tiramolla nelle trattative di pace a Parigi, per cui l'Italia riesce ad ottenere un'amministrazione fiduciaria sulla Somalia, era un modo per dire colonia nel momento in cui erano finite le colonie. Quindi la presenza degli italiani rimane. In Etiopia e in Eritrea gli italiani cedono sotto ogni punto di vista, rimarranno pochi a viverci, soprattutto tecnici, persone che lavoravano, in un qualche modo si erano costruiti una vita, dei riconoscimenti, anche delle ricchezze, ma in modo avulso dal regime, non grazie al regime. Quello che succede nel Corno d'Africa, a partire dai primi anni 60, cioè dopo che l'Italia se ne andrà, dopo che la presenza britannica sarà meno presente, eccetera, eccetera, l'evento storico che catapulterà la regione in dinamiche più globali è quello della guerra fredda. E quindi non proprio guerre tribali, siamo proprio in un contesto molto più complesso. Etiopia, Eritrea e Somalia diventano proprio delle pedine giocate in modo sporco e squallido da parte di tutti. L'Italia mantiene dei rapporti anche quando se ne va via dalla Somalia. I rapporti con le ex colonie però da parte dell'Italia non sono mai stati chiariti, evidentemente, ma ovvio, perché rientrerebbero in una Tangentopoli 2.0 se ricostruissimo tutti i rapporti. Era già tutto stabilito a tavolino: la Somalia del Partito Socialista, l'Eritrea è quello democristiano, in Etiopia operava Partito Socialista e Partito Comunista, cooperative, eccetera, eccetera, aiuti internazionali, regimi da sostenere. Quindi c'è una spartizione, ma come c'è una spartizione nella guerra fredda? Da parte dei nostri politici, da parte del nostro quadro istituzionale, mai uscito. Cioè il fatto che noi ci siamo, facciamo queste politiche legate alle clientele, agli interessi, alla corruzione, ma sono altri che si mettono a piepare in quell'area. Gli Stati Uniti daranno milioni, milioni di dollari in funzione antisovietica. Vi do qualche data, scusate. Nei primi anni 60 c'è un referendum, cioè quando se ne vanno gli italiani dall'Etiopia, la Somalia rimane fino a loro fino al 50, Etiopia ed Eritrea vengono annessi in un unico impero. Nel 60 c'è un referendum, 60-62. Con questo referendum si decide che Etiopia ed Eritrea debbano rimanere unificate. Devono rimanere unificate, ma i ministeri che gestiscono alcune competenze per questo accordo sarebbero dovuti passare da una parte e dall'altra, che ne so, le questioni finanziarie avrebbero dovuto essere gestite da due ministeri, non da uno solo. Succede che l'Etiopia non rispetta questo accordo e mano a mano erode i poteri dell'Eritrea e se ne ingloba. L'Etiopia inizia a ricevere milioni e milioni di dollari che veramente, se li quantifichiamo, tutti i soldi ricevuti dall'Etiopia rappresentano il 60% della spesa militare estera statunitense in quell'arco di anni. È spaventoso, perché stiamo parlando, specifichiamo, evidentemente le spese per il Vietnam erano conteggiate in un altro modo, erano spese di guerra correnti, mentre andare in un paese come l'Etiopia a controllare con delle basi militari non è una spesa militare di guerra corrente, evidentemente il dato che vi do lascia perdere il Vietnam, la più grande guerra coloniale nella storia dopo la guerra dell'Etiopia. Quindi noi abbiamo uno Stato, un paese che ha ricevuto un sacco di finanziamenti dagli Stati Uniti, non ho qui le pubblicazioni, quindi sto parlando a spanne, dovete anche fidarmi, e chiedo bene anche questo pressapochismo legato alle cifre, alle fonti, eccetera. Quando Haile Selassie verrà ucciso e gli subentrerà Mengistu e Mariam, chiamato Derg, Derg era questa giunta di quattro militari, Mengistu e Mariam fa fuori i suoi collaboratori e diventerà leader in persona. E questo inizierà a prendere una valanga di soldi, ancora di più perché a quel punto il gioco era a rialzo dall'Unione Sovietica. C'era una guerra in atto dal 66 con l'Eritrea. Etiopia e Eritrea sono in guerra. I soldi vengono dati all'Etiopia perché è forte, il paese è forte, il centro. Se l'Etiopia controlla l'area, in qualche modo si controlla il passaggio nel Mar Rosso, si controlla una zona nevralgica dell'Oceano Indiano, dell'Africa. E quindi si ha tutto l'interesse di avere l'Etiopia come alleato. Queste sono variamente a grandi linee, poi se volete ci mettiamo dentro tutto quello che c'era nella guerra fredda, tutti i residui. Se voi andate al sud dell'Etiopia, insomma, se voi andaste in Messico vi chiamerebbero gringo, bianco, ricco, da disprezzare. Se andate in Etiopia vi chiamano Cuba, Cuba. E quindi ecco che nello scacchiere internazionale della guerra fredda si insinuano anche i cubani, che erano reclutati per reprimere la resistenza eritrea, soprattutto come piloti militari. E quindi io faccio fatica, sono un contemporaneista, ragiono con la storia sul lunghissimo periodo, ma faccio fatica a vedere nell'oggi proprio una linearità diretta con il passato coloniale. Lì c'è mezzo alla guerra fredda, ci sono in mezzo 40 anni di scontri, che lì vengono combattuti, siamo sempre lì. In Africa viene fatto quello che altrove non si fa e non ci si può permettere. Spero di avere in parte risposto, non è proprio semplice. Perché appunto sarà contemporaneo, però non è che necessariamente si devono avere dei fil rouge tra un evento e l'altro. Ecco, uno sì lo potremmo trovare, e l'ho visto io di persona l'anno scorso in stazione, in Romagna, Como. Una tendopoli di disperati, tutti etiopi ed eritrei, una tendopoli di disperati che conosce i nomi, sanno chi era il Miru Zileke, Rasim Miru, Abebe Aregai, comandante del movimento di liberazione di tutte le etiopie. Loro li sanno i loro nomi, perché se ci parlavate con quei ragazzi sono nomi alle mari a mammo, sono nomi che loro conoscono, sarebbe come da noi dire Boldrini. No, comandanti partigiani, chi conosce la storia, i nomi li conosce. E lì è una storia che riserva molta poca felicità per il periodo successivo, quindi la conoscono, la storia del movimento di liberazione. Quindi certo che la continuità la trovavate lì. Giovani, la cui storia è la storia di quelli che hanno combattuto contro i nostri nonni. E certo la storia lì la ritrovo nell'oggi. Quando è arrivato Salvini a fare la sua marcia su San Giovanni, che prese a calci uomini che dormivano nel sacco a pelo, sputò sulle loro cose. E Salvini è lo stesso che quando arriva a Idi, il nuovo presidente etiopico, non fa alcuna dichiarazione ma parla dei francesi. Sto divagando molto filosoficamente in questo momento, però ecco, se dovessi trovare delle genealogie non le troverei assolutamente tra la politica internazionale di oggi o degli anni 70 e quello che abbiamo fatto noi. Ma certo, tra certi italiani di oggi, quelli che fecero certe cose, delle genealogie forti ce ne sono. È perché il buon italiano, non mi ricordo chi ha chiesto, buon italiano è proprio solamente un mito. Un mito costruito dagli inglesi, perché se leggete il libro di Filippo Foccardi sull'invenzione del buon italiano, è straordinario, perché noi abbiamo l'idea degli americani, no, è stato un progetto britannico quello di parlare del buon italiano, sia perché erano preponderanti nei territori dove avevamo l'impero, sia perché erano preponderati nel loro progetto di gestione politica durante la liberazione in Italia. Parliamoci chiaramente, noi abbiamo presente gli statunitensi, ma chi è che aveva il reale polso della gestione, non su quello che succederà dopo, ma durante gli eventi? Quanto contano di più i britannici degli statunitensi? Molto di più. E senza far polemica, gli statunitensi mandano gli aiuti a tutti, non si fanno problemi a mandare le brigate garibaldine. I britannici sono selettivi nell'invio degli aiuti. Questa rischia di essere una polemica. Comunque, nella lotta di liberazione nasce il mito del buon italiano, lo creano i britannici e tanti hanno l'interesse a che questo mito prosegua o si rafforzi, tutti, perché diciamocelo, aver visto l'Italia dal 43 al 45, a quel punto era difficile sostenere qualcosa in difesa del regime. Ma immaginatevi una persona presa prigioniera nel 41, portata in Kenya, torna in Italia nel 46. Cosa sa del fascismo repubblichino, della lotta di liberazione? Sono andati nell'impero nel 36, hanno visto tutto, hanno avuto tutto quello che volevano, tornano nel 46 e questi erano milioni di voti che si spostavano tranquillamente direttamente su un arco costituzionale di estrema destra. Allora, uno dei miei amici fu Giusto Peretta, che non so quanti di voi hanno conosciuto, ma Giusto Peretta, siamo su un piano diametralmente diverso. Fatto prigioniero in Libia, portato in India, torna dopo la guerra, ma Giusto Peretta ha avuto un padre martire della lotta di liberazione, un padre che è stato antifascista durante tutto il ventennio e che ha pagato con delle scelte estremamente dure la sua opposizione al fascismo. Degli italiani è stata data un'immagine diversa. Qualche anno fa, e ormai sono tanti, scoprì una delle più efferate stragi, ve l'ho già citata, e fu un processo di analisi e di studio particolarmente difficile, perché io trovai in archivio una cartina scritta a mano e poi un foglio a segno. Iniziato il 6, la notte dell'8 e del 9, colpita la grotta con bombe ad arsina. Il giorno dopo la utilizza di ibrite, il giorno successivo la resa e mitragliante. In 800 gruppi di 50. Questo è il documento che avevo io. Trovato in un fondo archivistico sulla Marina Militare nella Seconda Guerra Mondiale, quindi è proprio perché ormai ero a Roma da anni a cercare, un po' mi mettevano a fare le pulizie in caserma perché stavo guardando tutto. E piano piano con il tempo ho recuperato tutte una serie di informazioni di questa strage, i singoli telegrammi mandati dalle colonne, le relazioni mandate dalle colonne ad Addis Abeba, le relazioni mandate ad Addis Abeba, i telegrammi di Mussolini che si complimenta, e a un certo punto ho praticamente finito il mio libro, era quasi in stampa, mi chiamo Signore di Torino, la notizia della grotta era già uscita, perché quando ero in Etiopia a fare le indagini appunto sul campo incontrai e conobbi Paolo Rubiz, giornalista di Repubblica, che riportò la notizia sul giornale in prima pagina, quindi questa vicenda ormai era tornata alle cronache. Ma un giorno mi chiama questa signora e mi dice: Domignoni, buongiorno, io sono figlio di quello che ha usato il gas nella grotta, mio padre ha scritto un diario. E niente, andai a Torino, fu tutto molto difficile, molto molto davvero. Quel signore mi disse: guardi, io so da sempre questa storia, ma in famiglia non ne abbiamo mai parlato. Mio figlio mi ha detto che lei è riuscito a trovarla, quindi a questo punto ritengo doveroso prendere pubblico il diario di mio papà, anche perché io ho un tumore terminale, mi rimane poco ed è l'ultima cosa che vorrei fare prima di vivere, prima di morire. E quindi per me è stata molto dura, perché figuratevi, la ricerca l'ho fatta sul campo, andare a vedere luoghi di una strage, fondamentalmente ho dovuto contare i teschi, le ceste, vedere i vestiti bruciati, ossa, fare una stima sul consumo pro capite di calorie ogni giorno per vedere di fare stime quante persone c'erano in quella grotta lì. Un processo molto difficile, perché poi sei in un posto sperduto dove non c'è niente, e quindi la ferita si riapre ulteriormente con un uomo che sta morendo, e quindi è un continuum, è tutta una storia con grosse contraddizioni, grosse per me come studioso e come uomo, perché poi quando andai in Etiopia la mia compagna era incinta, quindi andavo a fare una ricerca sulla morte, a inseguire la morte, e a casa avevo qualcosa di diverso, decisamente diverso. E però tutto, quando fate certe cose, vi frulla nella testa senza alcun tipo di gerarchia, ce l'avete continuamente nella testa. Andai a Torino dal signor Boaglio. Il signor Boaglio si presentò e mi disse: io e lei non la pensiamo nello stesso modo, ma la verità è un'altra cosa. E io mi ricordo che allora stetti tutto un giorno a casa sua a leggermi questo diario, in una stanza dove era pieno di scudi, sciabole, lance, coltelli presi nella grotta della strage, tra l'altro. E fu difficile, fu un rapporto difficile, perché io avevo a che fare con il figlio di un personaggio che fece certe cose, che mi mise a disposizione un documento straordinario che nessuno ha pubblicato adesso, ma nessuno ha mai trovato un documento così, ma neanche nel contesto al di fuori dell'Italia. È una persona che rispettava il padre. Il padre nel dopoguerra farà la guardia alla Fiat, certo, non è il comunista mandato al confino che sta nel reparto punitivo, è comunque una guardia all'interno della Fiat. E poi mi dice: mio padre era un padre di famiglia, mio padre non era fascista, mio padre fece quello che gli dissero di fare. Lo scrive nel diario, si pente già, si pente. E quella contraddizione morte e vita di cui vi ho detto emerge dalle sue pagine, perché durante l'assedio, scusate, dopo l'assedio, quando le donne e gli anziani, perché erano tutte donne in questa grotta, i guerriglieri si erano allontanati, lo sapete meglio di me, che i partigiani non affrontano vis-à-vis il nemico, scappano, si danno la marcia, misero in protezione e sicurezza gli abitanti di diversi villaggi e li lasciarono nella grotta. Quindi nella grotta c'erano donne, anziani, bambini, qualche partigiano si è ferito. Il giorno della resa, mentre avveniva il mitragliamento, c'è proprio la descrizione del parto di una donna tra queste assediate. Faccio troppa fatica a leggervelo dopo così tante parole, però anche questo Boaglio fa emergere la morte e la vita. E mette in bocca le parole a questo bambino, che dice: voi state facendo una cosa drammatica, pagherete, pagherete per tutta l'umanità e pagherete per l'eternità. Quello che ha usato il gas, che noi in maniera scontata considereremmo uno dei peggiori e più efferati criminali di guerra, era un uomo che scrisse certe cose, ci ha riflettuto, un uomo che crebbe un figlio straordinario, perché quello che mi ha messo a disposizione in questo diario, quanti metterebbero a disposizione di tutti un documento scritto dal padre in cui emerge che il padre è una figura che ha fatto certe cose, ma voi pensate se venisse a scoprire che un vostro genitore, un vostro congiunto, un vostro caro ha fatto una cosa così, e avere il coraggio di renderlo pubblico. Io il giorno in cui andai a casa del signor Boaglio e uscii, camminavo un metro da terra, ero felice di trovare nel mio paese delle persone con un così alto livello di responsabilità, trovarsi di fronte a un uomo che mi dice: io non la penso come lei, ma la verità trascende da tutto, in un paese dove oramai ci si stringe la mano ancora prima di chiedersi, di dirsi il nome, ci si chiede se sia di destra o di sinistra. Io quel giorno ho raggiunto una pienezza nella mia visione dell'umanità, che vaccina, sempre ci mancherebbe altro. Boaglio morì la settimana prima di vedere il libro stampato. Io feci un mese e mezzo, lavoro sul Gottardo, quindi immaginatevi ogni settimana avanti e indietro, da Como più o meno le pendici del Gottardo, in Ticino. Il fine settimana, che in quel periodo mi serviva per ristabilirmi, era andare a Torino, ospedale, reparto terminale, e quindi avere a che fare con un uomo, con la malattia, con la sua compagna, con i figli, molto molto molto complicato. Gli riuscimmo a fargli vedere le bozze finali la settimana prima della pubblicazione, ma veramente è un continuum di un senso di morte molto profondo. E quindi alla fine riuscì a bloccare la pubblicazione del mio libro, aggiunsi il diario che Boaglio mi mise a disposizione. Io ho pubblicato poi la terza, mi ritorno importante, e quel giorno chiamai la terza e gli dissi: io il mio libro, se non mi mettete queste pagine, non lo pubblico, non lo pubblicate, pago tutte le penali che volete, ma il mio libro non può uscire senza questa testimonianza. Non lo so, probabilmente ero simpatico all'editore, mi disse: va bene, aspettiamo ancora un po' e andiamo avanti. Nel 2017, tanti anni dopo, ormai 9 anni dopo, l'Associazione Nazionale Alpini dedicò alla strage di Zeretto un numero intero. Si chiama L'Alpino. Credo abbia una tiratura sopra 1 milione di copie, perché l'Associazione Nazionale Alpini, dopo l'ARCI, penso che sia l'associazione più grossa in Italia. Il mensile L'Alpino fece un numero intero per dire che la strage di Zeretk non c'era, è stata inventata. Ma più che altro, qual era la questione centrale? È che colui il quale ordinò e condusse la strage in questa grotta si chiamava Gennaro Sora, capitano, era colonnello, poi generale, ma nella Bergamasca, in ogni piazza, in ogni strada, in ogni paesello trovate capitano Sora, via, targa, piazzetta. Capitano perché è un uomo del popolo, d'accordo? Come l'altro capitano di oggi non aspira a farsi chiamare duce, si limita a farsi chiamare capitano, deve essere un uomo del popolo vicino a noi, che ha condiviso certe esperienze. E invece il colonnello Gennaro Sora fu colui il quale ordinò l'assedio della grotta, ordinò il lancio di arsine per far uscire gli assediati, ordinò la fucilazione e ordinò la bonifica successiva fatta con lanciafiamme. Gennaro Sora è responsabile della strage di Zerente. Solo che Gennaro Sora è quello che ha scritto la preghiera dell'Alpino. Gennaro Sora è l'eroe numero uno per l'Associazione Nazionale Alpini. L'Associazione Nazionale Alpini ha dedicato un numero intero della sua rivista per attaccare me, per attaccare Paolo Rubiz e per riscrivere una storia che non c'è. Quindi do una serie di elementi a proposito dell'italiano brava gente. Ma l'italiano brava gente, guardate me, lo vedete quando parla delle donne, quando parla degli immigrati, quando commenta certi eventi. Quale altra domanda ho lasciato? Maletti e poi ce n'era un'altra. Vediamo che c'è il rinfresco. Maletti, generale Maletti. Maletti è uno degli ufficiali italiani che entra nell'elenco dei criminali di guerra di questi dagli etiopi dopo il 45. Generale Maletti è colui il quale condusse le strage dei Bralibanos. Generale Maletti, ma poi qui rischiamo magari di entrare in un complottismo, è il padre di un altro Maletti, tristemente famoso, che adesso vive o magari è deceduto in Sudafrica, che doveva tornare qualche anno fa, ma non so se sia tornato con un salvacondotto per testimoniare sui depistaggi seguiti alla strage di Piazza Fontana. Un continuum, però ecco, qui rischieremo di finire un complottismo e non sono assolutamente complottista, questo. Chi è il generale Maletti? Generale Maletti è un uomo che conduce le repressioni su ordine diretto di Graziani. Allora, dopo il 19 febbraio del 37, l'attentato contro Graziani di cui vi ho detto, e le stragi che vengono condotte da Addis Abeba, viene ordinato di colpire la città santa di Debra Libanos, perché dalle indagini svolte dai carabinieri risulterebbe che gli organizzatori fossero passati da Debra Libanos prima di andare ad Addis Abeba a fare l'attentato. Gli attentatori erano due uomini di origine eritrea. E qui potremmo dire diverse cose, perché per anni i miei maestri hanno detto che la comunità di Debra Libanos non aveva alcun tipo di responsabilità nei confronti dell'attentato a Graziani. Da recenti ricerche invece, insomma, si è stabilito che a Debra Libanos c'era una rete cospirativa e clandestina abbastanza consolidata e organizzata. C'erano un paio che non giustificano la pesaglia come quella fatta da Maletti. Maletti riceve l'ordine di distruggere tutta la comunità conventuale. A Debra Libanos si va in pellegrinaggio. Debra Libanos è la città sacra dell'Etiopia per eccellenza, perché ci sono le ossa degli imperatori, altrimenti la città che è considerata una seconda Gerusalemme si chiama La Libella, non è Debra Libanos. Cosa fa Maletti? Si reca a Debra Libanos. Immaginatevi questo recinto con una chiesa importante, altri edifici di fianco. Se andate, la chiesa di oggi non è più quella dell'epoca, perché è stata rasa al suolo, bruciata. Maletti nel maggio del 37, quindi sono passati due mesi dall'attentato, ci sono state violenze su tutta la regione. Ai primi di maggio si reca a Debra Libanos, raduna monaci, diaconi, pellegrini, ma poi desiste dal progetto di decimare la popolazione perché ci si rende conto che la Pasqua sarebbe seguita dalle 2 settimane. E quindi Valenti organizza una seconda puntata su Debra Libanos in occasione della Pasqua, e a quel punto verranno presi un sacco di prigionieri in più. A Debra Libanos vengono smantellate le chiese, ci sono descrizioni raccapriccianti di gente che è stata lasciata a morire di fame, di sete. E quindi Maletti conduce un eccidio inizialmente a Debra Libanos, poi si sposta alle zone limitrofe, arresta altre persone appartenenti al mondo ecclesiastico e li fucila segretamente in una località che si chiama Engecia. Quindi se ne abbiamo sempre parlato di Debra Libanos, adesso aggiungiamo anche Engecia come seconda località. Poi, nelle mie ricerche, ma qui a questo punto dopo 3.000 morti sono numeri che drammaticamente potrebbero apparire irrisori, ho trovato altri 5 monaci, 5 chiese bruciate prima di Debra Libanos, nei giorni antecedenti, eccetera. Maletti non verrà mai condannato per le sue geste. Poi c'è una cosa sui rapporti con i sommari. I rapporti con i musulmani sono di alleanza. Il fascismo sceglie questa alleanza con i musulmani. Prima perché la Libia ce l'abbiamo con noi, la conosciamo. Attenzione, c'è l'Eritrea, ce l'abbiamo da prima, ma in Eritrea la presenza italiana dopo Adwa ha poco senso, poco spinto. E poi l'Eritrea dopo un terremoto dei primi anni 30 viene in grosso modo abbandonata. Quindi c'è questa alleanza tra Islam e fascismo, lo sceglie il fascismo. Le truppe coloniali sono composte inizialmente da musulmani. La maggior parte delle truppe coloniali, gli ascari, sono musulmani. Gli etiopi vengono organizzati in bande. Bande senza una divisa, senza cavalli, senza segni di riconoscimento, proprio bande. Immaginiamo cosa possa fare. Anche in Abarico li chiamavano bandas, quindi gli italiani usano i musulmani, li inquadrano, ci sono anche gli zaptieri, carabinieri, i sovani vengono, insomma, i musulmani vengono anche inquadrati da parte di carabinieri. Alcuni di questi, attenzione, cito la fonte perché poi io canto su questo, non l'ho mai trovato, la fonte è Angelo Del Bocca, che lo scrive nel suo volume di Italiani in Libia. Diversi combattenti, lui dice poi tra i più efferati, tra i sudditi, tra i soldati ascari, sono orfani presi dal regime fascista nei campi di concentramento dal 1930-31 in Libia. Quindi prende un bambino di 5-6 anni che rimane orfano in un campo di concentramento nel 30, 7-8 anni, per l'Etiopia è pronto, prestante per poter combattere ed essere un'efficace macchina da guerra per la tragedia umana vissuta. Certo, voleva dire complicarsi le cose. No, ce n'era un'altra. Ho risposto? Costruire una nuova Italia. Me la sono segnata così, ma gli italiani cosa dicono, cosa pensano? Cioè che me la testa questa? Presidente? Marco? Marco? Sto rispondendo a te. Sei il segretario della provvedimento amministrativo. Cosa dicono gli italiani dell'esperienza coloniale? Gli italiani all'epoca. C'è un consenso, è evidente. Il regime raggiunge il massimo del consenso. Attenzione, non voglio una risposta da critica da milioni, ovvio che un regime non c'è la democrazia, non c'è il voto. Non uso la categoria consenso evidentemente come la si usa in un sistema democratico, d'accordo? Detto questo, si può usare la categoria del consenso, che sia estorto in maniera coercitiva o a partire da degli interessi forti, si parla di consenso evidentemente, perché d'altronde i regimi cadono quando non hanno più il consenso. Il fascismo ce l'ha il consenso, lo costruisce. Cosa pensano gli italiani? Che ci rispetteranno, che avremo da guadagnarci. In Etiopia, voi non lo sapete, ma si fanno 3 raccolti all'anno. Falso. Okay. Ma insomma, siamo di fronte a un regime, cioè non è un regime di Brocchi, è un regime mussoliniano, è un regime che sfoderò e sviscerò in tutte le sue estreme possibilità la propaganda. E poi l'Africa è esotica, è da quando si parlava di Africa, tutte le raffigurazioni, guardate bene, dobbiamo guardare la pubblicistica, certe immagini osè che giravano, certe donne che per gli africani erano scontate, ma attenzione, se voi andate a comprare certe liquirizie o certi cioccolati, c'è adesso una liquirizia Taitu, la vendono Taitu, imperatrice d'Etiopia, la vendono ancora Taitu perché è nera, quindi c'è un'immagine esotica. Andiamo e possiamo fare quello che vogliamo, ci rispetteranno tutti, infinite vie. Anche qui figurati che si è spesso discusso, ma quanti antifascisti purtroppo pur di levarsi dal contesto europeo, vivere in pace con un piccolo di benessere, hanno scelto di andare in colonia pur di non avere certi problemi qui da noi. Gli italiani danno consenso, gli italiani partecipano in massa alla donazione dell'oro alla patria. Solo il vescovo di Bressanone si rifiuta di fare la raccolta dell'oro alla patria, ma Bressanone all'epoca era un po' difficile definirla Regno d'Italia in maniera completa, anche perché era proibito parlare in tedesca, era proibito avere una toponomastica tedesca e c'erano leggi particolari e chi aveva un cognome tedesco era tagliato fuori dall'amministrazione. No, proprio un consenso. Perché? Perché non lo so, a me ha sempre colpito da un mio maestro, Angelo Del Bocca, ma appunto se me lo sono scelto come maestro evidentemente un po' diverso da altri. E lui diceva, ma io ero a scuola, mi facevano il dettato, e il negus, e l'altro, e pentoloni, e gli anelloni, e cannibali. E lui diceva, ma io non ho mai, perché non li ho neanche mai visti, neanche mai conosciuti, e questi mi spingevano a odiare un popolo verso il quale io non provavo né simpatia né disprezzo. E però siamo di fronte a una persona che arrivava da un mondo con un certo tipo di cultura. Siamo difatti di fronte a una persona che subito, appena può, sceglie e si dà alla montagna. È una persona che poi condurrà tutta una vita in modo militante all'interno del Partito Socialista Italiano e per ultimo nei progressisti e poi animando l'Istituto della Resistenza di Piacenza, in qualche modo l'Ampi, l'Agend, scrivendo su Patria. E non stiamo parlando di uno normale, scusatemi, di un qualsiasi contadino lombardo piemontese. A me piace usare questa espressione, ma non per disprezzo, anzi, perché e poi le origini tutte nostre o della maggior parte di noi, però queste sono Io mi ricordo quando ero all'università, la compagna di mio nonno, perché mio nonno si risposò, che un giorno gli disse: famiglia Ras. Mio nonno si è seduto in poltrona, leva su, famiglia Ras. Ed è la prima volta che l'ho sentito, dopo chissà quanti anni è uscita questa cosa, no? Modi di dire, modi. Mio nonno era uno che appunto sarebbe, all'epoca era contento di quello che era. Orfano, dalla grande guerra, portato sempre davanti ogni manifestazione del 4 novembre. E finalmente il regime riesce a farsi. Ma di quella generazione credo tanti, perché qui insomma non è semplice la risposta, insomma. Ci sto anche un po' girando attorno, adesso interrompo perché capisco che siete stanchi, ma una domanda così vuol dire proprio andare al centro della questione, il potere del fascismo, come lo gestisce, il consenso, chi vi si oppone, è proprio... Spero di averci risposto. Volevo portare la testimonianza mia circa gli italiani brava gente, che posso dire anche da altre situazioni. Io ho avuto occasione di parlare con parecchie persone, con i greci in modo particolare. L'occupazione della Grecia, cioè gli italiani sono stati greci con la guerra, ma con un esercito normale, non tanto di a parte degli ufficiali, non erano, nella maggior parte dei casi non era volontà, anzi erano gente di legge, di gente che si è evidentemente comportata non bene, perché la guerra spara, ma si era dicendo, ma alla fine della guerra si è comportata degnamente. Tutti ricorderemo Cefalonia, quasi 10.000 morti italiani, fucilati di spagnoli. Ma tutte le isole del Peloponneso hanno la loro piccola tragedia di questo tipo, cos 70 ufficiali italiani fatti marciare per 70 km e per 14 milioni, scusate, poi fucilati in una fossa comune di Cina. La gente crede che queste cose se ne ricorda, e se riesce a parlare, perché io credo non lo parlo, ma qualcuno parla italiano, poi magari un po' di inglese, poi di francese, si può anche capire. Loro ricordano questo, per esempio, gli italiani, cioè per loro gli italiani brava gente è quella gente che è stata uccisa dai tedeschi su un territorio occupato di Polonia, però eravamo, come dire, compartecipi di guerra, io sono andato alla guerra in Israele, però c'è rimasto un po' questa cosa. A parte questo, che questa è la mia esperienza personale. Io voglio ringraziarvi tutti, adesso c'è un rifresco abbondante, così vi riprendete un po' le forze. Voglio ricordare che questa lezione sono organizzate dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, da ANPI, che si sostituisce con queste cose, con queste iniziative, che non sono solo queste, sono anche quelle poi delle ricorrenze, vi dicendo, a quello che non fa lo Stato, a quello che non fa la scuola. Nessuno di noi queste cose che abbiamo imparato oggi, che abbiamo imparato la volta scorsa, che imparerò le prossime, le ha mai sentite a scuola, neanche noi più anziani, ma tanto meno i giovani adesso. Noi non facciamo solo ricordo, non siamo, come qualcuno dice, un'organizzazione di reduci, noi siamo un'organizzazione antifascista e che lotta perché la storia del nostro paese, che è nata dall'antifascismo, costruzione data dalla resistenza, si è portata in mezzo alla gente. Grazie e buona festa.